Beh, cosa facciamo? Iniziamo? Allora, diamo inizio a questo incontro che sarà abbastanza impegnativo vista il lavoro che sta conducendo e quindi anche l'introduzione non sarà tanto lunga. Io parlo a nome della rete Tanta Salute per Tutti, Tutte, una rete che si è creata sotto il periodo del Covid e all'interno ci sono più situazioni di centri sociali piuttosto che organismi politici e sindacali. Ha una sede variabile che si ritrova o in panetteria a volte o in ambulatorio oppure in Torricelli qui a Lusi e facciamo degli incontri periodici e abbiamo anche editato un bollettino che purtroppo oggi non è qui con noi fisicamente, però è uscito proprio in questi giorni, lo mandiamo anche tramite web, quindi se qualcuno vuole anche tutto il materiale sia dalla Sartore sia dalla rete, qui ci sono dei fogli che potete scrivere e noi mandiamo tutta la documentazione. Quindi non vado oltre, dico solamente che oggi parliamo di sanità. Siccome i numeri secondo me non sono tanto confortevoli, vuol dire che forse non riusciamo a trasmettere il messaggio di cosa sta succedendo in questi tempi con una sanità che ormai sta perdendo tutti i suoi valori e principi che l'hanno fondata col Servizio Sanitario Nazionale del 1978. Ormai tutto si sta privatizzando. Per entrare nell'argomento vi leggerò solamente una frase di Noam Chomsky, un pensatore libertario americano, che in poche parole ha definito quello che stiamo assistendo oggi qui da noi e anche in tutti gli altri stati europei. In pratica dice quattro frasi. Qual è la tecnica standard per la privatizzazione? Lui dice: togli i fondi, assicurati che le cose non funzionino, fai arrabbiare la gente e così lo consegnerai al capitale privato. Bene, questa logica qui è quella che sta succedendo in tutte le aziende, anche pubbliche, della regione Lombardia e anche in Italia. Rimane ancora il Servizio Sanitario Nazionale, come legge del 78, però stiamo già assistendo a un'introduzione di 21 sistemi sanitari regionali dovuti forse alla riforma dell'autonomia differenziata e quindi va da sé che ci sono disparità di trattamento fra regioni e regioni, fra nord e sud. Per esempio tutto il sud è verso in condizioni drastiche, tranne la Puglia e la Basilicata riescono a garantire i LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, però tutto il resto è proprio terra bruciata, non esiste più un minimo di sicurezza e anche di garanzia di un'assistenza degna di tale nome. Per cui i fondi li tagliano e li hanno tagliati. Li hanno tagliati soprattutto nel periodo dal 2010 al 2019, dove per la sanità sono stati sottratti più di 37 miliardi di euro. Quindi dal 2010 al 2019. E in più tutta una serie di accorpamenti di reparti, di ospedali, di chiusura addirittura di piccoli ospedali se non rientravano nella norma, parametri fissati dal Ministero. Per esempio se in una struttura una sala parto non fa 1500 parti l'anno è destinata a chiudere. Per cui questo lo stiamo assistendo anche da noi a San Paolo, San Carlo. Anzi, sarà, magari inviterei anche il gruppo di studio della Sartor magari a voler in un futuro approfondire questa storia del San Paolo e del San Paolo, visto che noi siamo qui in zona di riferimento anche per gli altri due sportelli di Baia del Re, eccetera, perché sta tornando a galla una nuova ristrutturazione che non si sa come andrà a finire. Vi ricorderete, il San Paolo e San Carlo nel 2016 erano stati unificati, poi con la legge regionale nuova si prevedeva la chiusura di questi due ospedali e la creazione di un ospedale nuovo dietro il Parco Teramo, dietro alla Barona, verso Buccinasco, che poi per fortuna non è andata in porto perché ci sono state fatte tante iniziative contro questo progetto. Si è istituito anche un comitato di difesa San Paolo e San Carlo che è stato molto attivo anche durante il periodo Covid, e quindi appena iniziato il Covid però arriva la notizia che l'assessore rimangia questo progetto e non se ne fa più nulla. Per cui i due ospedali rimangono ancora uniti come unica azienda, però sono diversi come territorio e come tipologia, e stiamo assistendo invece a una degradazione delle condizioni del San Paolo, che tutto verrà invece trasferito al San Carlo, e quindi del San Paolo non si sa che fine farà. In un primo momento avevano ipotizzato che ci fossero più ospedali di comunità all'interno, cioè occupare dei piani centrali per fare non un ospedale di comunità, ma più ospedali che servivano anche per altre zone. Invece adesso è stato rimesso tutto di nuovo in discussione, nel frattempo i consultori chiudono, i CERT, eccetera, eccetera, e adesso arriva una nuova proposta che prevede una ristrutturazione che sarà al minimo, dicono, di 8 anni per mettere a norma un ospedale, che però questo vuol dire anche farlo, diciamo... Esatto, perché ci metteranno 8 anni in cui, quando abbiamo visto che il San Donato alla zona Rofiera in 2 anni è stato costruito 10 piani sotto più altri sopra, camera operatoria all'avanguardia, e invece quando riguarda una struttura pubblica ci sono sempre questi problemi, che magari i soldi arrivano, poi non si sanno dove vanno a finire, e il San Paolo di questo è famoso perché i soldi arrivano, però del concreto poi in termini di assistenza poco. Basta, non vado oltre a dire questo perché i dati che volevo dire dei rapporti vari, eccetera, però c'è da dire che per esempio per quanto riguarda il problema sanità non è in agenda politica di questo governo, ma non lo è stato neanche nei governi precedenti, perché non bisogna dire che è qualcosa che si può imputare a una formazione politica. No, qui è qualcosa dove ci sono dietro tutti, dai sindacati, dai partiti, eccetera, eccetera. Perché la privatizzazione va avanti anche introducendo welfare aziendale, che sono i contratti integrativi a livello aziendale che si vanno a fare. Vengono poi bloccati i soldi per gli straordinari, per le indennità e per i rinnovi contrattuali. Adesso per esempio c'è uno stanziamento di 1,8 miliardi per il contratto della sanità, ma nessuno l'ha firmato perché è talmente pessimo che, ad eccezione della CISL, sindacato che conoscete bene, ha firmato, ma tutti gli altri no. Quindi si sta vivendo anche una situazione gravissima del personale, sia medico che infermieristico, che abbandonano la struttura pubblica. Molti se ne vanno per per crisi, burnout, piuttosto che condizioni lavorative pessime, perché dopo il Covid i turni di lavoro che erano sperimentali di 12 ore sono diventati la norma. Non è che si è ritornato indietro. Quindi quando ci dicevano bisogna stare lì anche 12 ore, beh, 12 ore sono rimaste. È una roba assurda che molti compagni hanno dato la vita per ottenere 8 ore di lavoro e qui tranquillamente si fanno 12 ore senza che nessuno dice nulla. Quindi anche queste condizioni qua incidono anche sulla qualità dell'assistenza che si dà nella struttura pubblica. Perché se gli infermieri mancano e l'Italia ne ha una media di 6, credo, 5 per 1000 abitanti, mentre a livello europeo è 9,8, beh, questa differenza vuol dire anche in termini di morti, perché ci sono anche dei studi che dicono, riviste prestigiose come il Lancet, eccetera, eccetera, che carenze di infermieri vuol dire una 8,7% di morti in più, dovute alla mancata cura, all'assistenza, perché è normale, se non ci sono le forze come fai? E loro invece insistono sempre con ripresentare sempre vecchie formule, tipo il governo precedente, il giugno scorso, ha introdotto un decreto sulle liste di attesa. Bene, questo è un decreto che non dice nulla, già lo diceva quello del 1998, a cui tanti sportelli fanno riferimento. Ma questo decreto qua, oltre a dire che bisogna lavorare anche il sabato e la domenica, ma non danno i soldi, non danno il personale, vuol dire non fare nulla. Quindi non vado oltre, mi fermo qui sul personale. Grazie. Allora, sono del gruppo di studio per la salute del futuro. Ci siamo costituiti poco tempo fa perché abbiamo deciso di avviare un'attività di studio e di approfondimento della sanità. Scusate, sì. Di studio e di approfondimento dei problemi della sanità a partire dalla spiegazione di che cosa è la sanità lombarda nel resto del paese, in relazione al resto del paese. Però il nostro punto di vista è un punto di vista nazionale e teniamo conto ovviamente di altre realtà e la progettazione che andiamo a fare riguarda l'intero paese, l'Italia nel suo insieme. Allora, volevo avvisarvi del fatto che molto probabilmente sarò molto veloce nel parlare perché ci sono molti contenuti che vorrei trasmettere ed è un'occasione unica quella di trovarci insieme per poter cominciare a trasferire delle informazioni che non sono di pubblico dominio. Allora, la struttura di questo incontro è questa, è suddiviso in due parti. La prima parte è dedicata al fatto di spiegare, tentare di spiegare, di dare delle informazioni concrete su come stanno le cose nella sanità lombarda e in particolare nei municipi, visto che siamo qui in questa specifica via Conchetta, municipi 5 e 7. 7 perché? Perché l'ospedale San Carlo poi si trova nel distretto 7. E quindi per noi era importante quindi darvi dei riferimenti concreti per quanto riguarda proprio la situazione di fatto. Poi la seconda segue a questa prima parte un dibattito. Vi preghiamo di lasciarci un po' dire perché altrimenti non riusciamo a concludere alcuni argomenti molto importanti che poi servono a voi per poter anche intervenire e interagire con noi. E poi c'è una seconda parte, che è la parte diciamo più innovativa, più originale del nostro lavoro, che è quella di proporvi un'ipotesi di progetto di un nuovo servizio sanitario nazionale che ha ripreso i vecchi principi dell'SSN del 78, naturalmente attualizzandoli per certi aspetti, e il nostro lavoro più diciamo, come dire, più laborioso, più intenso è stato proprio quello di provare a fare delle simulazioni riferite ai municipi. Quindi una simulazione riferita al municipio 5, una simulazione riferita al municipio 7. Allora, come vi ho detto, la prima parte riguarda il come stanno le cose nella sanità lombarda in rapporto al resto del paese. La prima cosa che dobbiamo dirci è che non basta quello che viene detto dagli organi di informazione, serve un'ampia panoramica per andare oltre questa informazione circolante, che non è completa. Quindi parleremo di normativa, di strutture, di comportamenti e di rappresentazioni, rappresentazioni di quello che viene fatto in Lombardia in particolare. Andiamo magari velocemente su questo. Sì, allora. Dunque, diciamo che appunto la sanità è in ogni caso una realtà che chiaramente è molto complessa, per cui anche la normativa deve essere complessa. Però vogliamo diciamo così, porre l'attenzione sul fatto che comunque questa complessità a volte non è proprio casuale, in quanto tutta la, diciamo così, tutta la normativa è fatta su varie modalità. Come potete vedere, in Regione Lombardia, oltre alla normativa nazionale, c'è anche la normativa regionale, che sono di fatto delle delibere di giunta, per cui il Servizio Sanitario Nazionale il Servizio Sanitario Regionale fin dall'inizio è sempre stato creato attraverso delle delibere di giunta, per cui escludendo totalmente il Consiglio regionale, e già questo insomma da un'impostazione. Le leggi regionali, diciamo, arrivano semplicemente a valle di tutte delle modificazioni organizzative e amministrative che vengono portate avanti appunto dalla giunta regionale, e la legge regionale non fa nient'altro che, diciamo così, mettere il sigillo su questa cosa. Per cui, dicevo, oltre alle leggi nazionali ci sono appunto queste delibere di giunta, che sono tantissime, vengono formate direi centinaia di delibere di giunta che riguardano la sanità in Regione Lombardia, e di queste bisogna ricordare in particolar modo quelle che vengono solitamente emanate alla fine dell'anno e che sono quelle che si chiamano le regole di sistema dell'anno successivo. Queste regole di sistema sono dei tomi, non so se riuscite a vedere, ma comunque vengono riportate anche qui il numero di pagine, insomma sono delle delibere che comportano degli allegati che si aggirano, quando va bene, sulle 250 pagine, se non addirittura fino a 418-420 pagine. Perché sottolineiamo questo aspetto? Perché ovviamente appunto questa difficoltà e questa stratificazione è ovvio che hanno poi un risultato, e che è appunto una riduzione della chiarezza e della comprensibilità dei testi, in particolar modo e in primo luogo per chi ci lavora, cioè per chi lavora all'interno della sanità è difficile riuscire a risalire, diciamo così, al bandolo della matassa, o a capire che cosa succede, perché un certo tipo di indicazione, di organizzazione viene modificata. Per cui questo si porta dietro anche la certezza del diritto. Allora, il fatto delle liste d'attesa, che appunto qui è stato più volte sottolineato, è anche dovuto al fatto che appunto c'è poca comprensibilità e poca chiarezza, perché appunto, come si ricordava prima, una legge voglio dire della fine degli anni 90 poteva benissimo essere già utilizzata. Perché non è stata utilizzata? Appunto perché questa mole di normativa fa in modo che anche quelle cose lì vengano, diciamo così, immesse in un oceano, per cui è difficile poi andare a trovare nell'oceano la barchetta che ti può salvare. E poi io credo che questo sia invece l'elemento più importante che bisogna ricordarsi per questa per questa, appunto per questo problema, perché io credo che sia un problema, è appunto il fatto di tenere sempre più lontane le persone, per cui impedire la possibilità di partecipazione. Perché se un elemento di tutta questa struttura non è comprensibile, non è facilmente intelligibile dalle persone che dovrebbero utilizzare appunto questo strumento, che dovrebbero richiedere appunto il servizio, è ovvio che non fa nient'altro che cancellare la partecipazione delle persone. Qui avevo riportato sulle slide soltanto alcune cose per far vedere, appunto, queste sono le ultime delibere delle regole di sistema, per cui ripeto, da 200, 300, 400 pagine l'una, dove c'è dentro di tutto di più, non è che si diciamo così, sono specialistiche su un ambito, ma lì dentro ci sono alcune pagine che parlano di un elemento, altre pagine che parlano di cose completamente differenti. Per cui anche in quel caso andare a recuperare un po' una linea è molto difficoltoso. Queste ad esempio sono le delibere giunta dell'ultimo anno, insomma del 2024, relative alla questione liste d'attesa, tanto per dire. E poi appunto un'ultima cosa è che, oltre alla normativa nazionale e regionale, negli ultimi tempi, diciamo negli ultimi due anni, sono diventate ancora più numerose le note esplicative della giunta regionale, che di fatto prendono addirittura il sopravvento rispetto alle stesse delibere, che spesso e volentieri si ha difficoltà a comprendere. Ecco, adesso vorrei parlarvi dell'evoluzione storica e organizzativa dell'SSR Lombardo in rapporto al Servizio Sanitario Nazionale. Vado velocemente. Quali sono le ragioni che spingono da sempre dalla sua istituzione a travolgere il Servizio Sanitario Nazionale pubblico e universalistico? Beh, sono appunto sempre state le stesse, e sono due sostanzialmente: contrastare l'universalismo, ossia l'equo accesso per tutti alla sanità pubblica a carico della contribuzione generale, e questo attacco si chiama in modi diversi, si chiama universalismo selettivo o di recente universalismo proporzionale ai bisogni. Quando c'è una spiegazione dopo il termine universalismo c'è sempre, come dire, un trucco sotto, quindi bisogna stare molto attenti. Seconda ragione forte, anche questa continua nel tempo, è consentire alle forze di mercato di poter definitivamente accedere ad un settore redditizio in crescita, in cui sia possibile sfruttare le condizioni di rendita garantite dalla continuità del rapporto con il soggetto pubblico. Ecco, teniamo a mente questi due grandi blocchi di considerazioni. Adesso vorrei formulare una linea interpretativa di quanto è stato e avvenuto in questo ultimo periodo, gli ultimi 30 anni, gli ultimi 30 anni e più. Il Servizio Sanitario Nazionale del 78 è il solo modello, intanto questo in premessa, è il solo modello di sanità che incarni pienamente i principi della nostra Costituzione. Vi erano disponibili altri modelli? Beh, nessuno era in grado di portare avanti i principi della Costituzione come questo tipo di configurazione organizzativa. Bene, quel Servizio Sanitario Nazionale del 78, che è stato istituito in un periodo in cui al governo c'erano quelli che lo volevano affossare, okay? Allora la più forte spallata l'ha ottenuta 14 anni dopo della sua istituzione, cioè nei primi anni 90. E si è colta lì l'occasione della grave crisi monetaria e finanziaria, ma anche istituzionale, per trasformare radicalmente il modello di sanità in Italia. Non era una cosa difficile, perché si trattava in un certo senso solo di seguire, no, avendo fatto poi degli adattamenti, di seguire una strada che era già stata in parte tracciata altrove. Chi ha aiutato questa trasformazione? Bisogna mettere a fuoco anche questo aspetto epocale, una trasformazione epocale del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Beh, le multinazionali della consulenza aziendale, soprattutto chi aveva un ruolo nel settore della sanità negli Stati Uniti, interessato all'apertura dei mercati italiano anche in sanità, non a caso ovviamente. Poi le università italiane di management, capofila indiscusso il Cergas Bocconi, ma non solo, perché adesso sta ovviamente orientando i comportamenti anche degli altri sistemi accademici. E le due parole d'ordine fondamentali sono il New Public Management, che è praticamente l'aziendalizzazione e la privatizzazione del soggetto pubblico, e i mercati in sanità, l'introduzione dei mercati in sanità. Poi ci sono stati anche degli studiosi di orientamento progressista collocati ai vertici della ricerca pubblica italiana, economisti, giuristi e sociologi, che erano impegnati, sono stati impegnati nella introduzione in Italia di modelli di importazione all'interno della sanità. Il quasi mercato in sanità, che è nato alla London School of Economics come concetto, e un sistema di attribuzione di prezzo alle prestazioni degli ospedali che appunto consentisse quindi per ogni prestazione di avere un prezzo, o un insieme di prestazioni avessero un prezzo. Qual è stato? Ci sono state delle conseguenze forti, no? Che sono derivate dal fatto dell'aver determinato un prezzo standard per gruppi di prestazioni ospedaliere nel Servizio Sanitario Nazionale. E qual è stata appunto questa cosa? Beh, il fatto di aver attribuito del prezzo standard alle prestazioni sulla base dei DGR degli Stati Uniti va qualificata oggi a posteriori come una delle innovazioni più dannose per il Servizio Sanitario Nazionale delle origini. Perché? Perché ha aiutato la privatizzazione e il fatto che il privato potesse scegliersi i servizi sulla base del prezzo che veniva, come dire, retribuito nel caso avesse fornito quel tipo di servizio. Quindi l'introduzione di questi DGR, come sono stati chiamati, tenendo appunto la denominazione statunitense, ha dato la stura alla possibilità di stabilire quali servizi di assistenza ospedaliera convenissero maggiormente alla sanità privata. Da lì si è sviluppata la strategia di posizionamento della sanità privata all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè hanno capito che lì ci poteva essere, come dire, del grasso che colava per loro. Il neoliberismo della nostra sanità ha visto così pienamente la luce sulla base di raffinati calcoli di convenienza economica effettuati da questi soggetti privati. La svolta del 92, aveva un obiettivo piuttosto chiaro e anche i modi per raggiungerli erano abbastanza, cioè, messi a fuoco. Allora, la prima cosa era l'aziendalizzazione degli enti pubblici in sanità e la riconfigurazione del Servizio Sanitario Nazionale. Sono cose che sono avvenute. Come è avvenuta la riconfigurazione? Quindi l'obiettivo era la privatizzazione, ok? Quindi come è avvenuta la riconfigurazione? Scorporando parzialmente la funzione di erogazione dalle ASL e attribuendola a strutture separate ancora pubbliche. Le AO, le aziende ospedaliere. Questo è un passaggio preliminare importantissimo per la privatizzazione del settore, perché cosa fai? Separi gli erogatori da quelli che regolano il sistema, prima cosa, e poi introduci regole di concorrenza tra gli erogatori pubblici e privati. Però intanto, cioè, tu hai determinato questo passaggio, è diventata un'azienda, quindi una organizzazione che si dovesse occupare di bilanci, della propria vita istituzionale, di come stare sul mercato, eccetera, eccetera. Quindi, logiche concorrenziali fra gli erogatori pubblici e privati e fra pubblici e pubblici. Bisognava far sì che il soggetto pubblico, in questo passaggio, potesse acquistare servizi da chiunque. Cioè, un'organizzazione pubblica aveva delle facoltà di regolazione della sanità, cioè di, come dire, organizzazione e gestione dell'intero attività, no, riferita alla sanità, però si affidava degli erogatori, pubblici o privati. Chiunque poteva realizzare servizi di erogazione per la sanità. Oltre all'aziendalizzazione, sempre nel 92, si consolida anche la regionalizzazione della sanità. Anche la regionalizzazione ha dato una mano alla privatizzazione. In che modo? Perché si è praticamente data la possibilità, attraverso l'autonomia regionale, che veniva ovviamente apprezzata da alcuni, data la possibilità di sperimentare percorsi verso la privatizzazione dell'SSN a velocità diverse e con configurazioni organizzative differenziate. Quindi, cioè, la Lombardia ha preso a piene mani questa possibilità, perché voleva essere, cioè, la regione di riferimento per la privatizzazione della sanità, diciamo così, la regione modello da questo punto di vista. Questa svolta, aziendalizzazione e regionalizzazione ai fini della privatizzazione, perché questo non era non noto, non era, come dire, sotto traccia, era perfettamente consapevole la scelta finalizzata a questo tipo di obiettivo. Bene, questa svolta si è basata su una falsa teorizzazione. La concorrenza tra differenti erogatori avrebbe reso migliore la sanità, si diceva. La concorrenza fra pubblico e privato sarebbe stata ad armi pari, mentre invece avrebbe svantaggiato il soggetto pubblico. La concorrenza avrebbe per finire anche consentito il taglio dei costi, ossia meno spesa sanitaria pubblica. Niente di tutto questo, naturalmente, lo sappiamo, l'abbiamo visto, si è verificato. Quindi, che cosa rappresenta la sanità lombarda nel contesto nazionale? Beh, rappresenta il primo laboratorio di sperimentazione della privatizzazione spinta e profit della sanità in una regione apripista. In Lombardia si inventano e vengono diffusi nuovi concetti, nuove parole d'ordine, la sussidiarietà orizzontale, tanto per fare un esempio. Gli strumenti di diffusione di questi concetti, di queste teorie, sono molteplici, fortissimi. Vengono utilizzati tutti i canali, cioè dalla carta stampata alla istituzione di fondazioni, cioè convegni, meeting a livello nazionale, eccetera. Quindi, soprattutto in Lombardia, si attivano in varie direzioni, no? Per portare a compimento questo disegno. Alcuni concetti, tra i quali appunto quello della sussidiarietà orizzontale, si radicano benissimo anche in Emilia-Romagna. Anzi, vengono per certi aspetti trasferiti e consolidati attraverso anche l'istruzione accademica. Che per costruire questo laboratorio di privatizzazione profit della sanità in Lombardia, che cosa serviva? Beh, dovevano realizzarsi due condizioni, sono state entrambe realizzate. Il disallineamento organizzativo, cioè un diverso modo di organizzare la sanità in Lombardia, tale da produrre la massima liberalizzazione della funzione di erogazione. E poi l'altro elemento fondamentale era territorializzare la regione, cioè la sanità della regione, intendo, attraverso lo sganciamento da ogni vincolo territoriale, sia per il privato, che notoriamente non vuole che gli vengano posti limiti di questo tipo, ma anche per il pubblico. E quando andremo a vedere cosa succede nei distretti, e ve lo racconteremo se avremo il tempo, okay, vedrete che qui non esiste il territorio. Non esiste proprio il concetto di territorio in Lombardia, non più, no? Nel passato forse, ma non più. Bene, entrambe queste politiche sono state realizzate, queste politiche sarebbero state invece da contrastare legittimamente e pienamente da parte del Ministero della Salute, per quello che rimaneva come cardine fondante del Servizio Sanitario Nazionale. Bene, come è stata realizzata la prima condizione, cioè il cambiamento organizzativo che era utile alla privatizzazione? Beh, in parte ve l'ho già accennato prima, solo che qui è stato fatto qualcosa di più avanzato ancora di quello che è stato fatto a livello nazionale. E se noi non sappiamo questo, non riusciamo a cogliere la realtà della Lombardia. Noi qui dobbiamo cominciare a capire davvero come stanno le cose. Allora, Con il consolidamento della regionalizzazione del 92 si è aperta una possibilità di autonomia normativa e gestionale in sanità che ha consentito alla Regione Lombardia, l'avrebbero potuto fare anche gli altri, ma la Regione Lombardia era più interessata a fare questo, no? Per varie ragioni, un radicale cambiamento organizzativo e il conseguente disallineamento del Servizio Sanitario Regionale Lombardo dal resto dell'SSN. Un disallineamento che a posteriori possiamo dire che è totalmente dannoso per noi cittadini. Beh, un'innovazione organizzativa che avrebbe consentito di attuare facilmente la massima liberalizzazione della funzione di erogazione dei servizi sociosanitari. Ok, allora che cosa è cambiato nella struttura organizzativa e nel funzionamento del Servizio Sanitario Regionale Lombardo? Allora, qui vi chiedo un attimo di attenzione perché non sono neanche cose semplici per noi, figurarsi per chi magari queste cose non le ha già affrontate ripetutamente per varie ragioni nella sua vita. Allora, la Lombardia, che cosa ha fatto la Lombardia? Ha scorporato alcune funzioni dalle ASL, ok? Dalle ASL, che si chiamavano ASL dappertutto fino ad una certa data, ok? Dappertutto in Italia intendo. E poi le ha scorporate ulteriormente nel passaggio della riforma Maroni, che ha istituito le ATS. Cerco di spiegarmi. Quello che è avvenuto qui, in estrema sintesi, ve lo dico come titolo, poi vi spiego, è che si è scorporata non solo l'attività ospedaliera, come è avvenuto in tutto il resto del paese, ma anche l'attività territoriale. Perché con la nascita delle ASST ci troviamo per la prima volta in Italia di fronte ad organizzazioni di erogazione, di sola erogazione, che si occupano sia di ospedali che di territorio. Quindi vuol dire che c'è un ente regolatore sopra e tu hai scorporato l'attività di erogazione, quindi vuol dire che la concorrenza c'è sia sull'ospedale sia sul territorio, tra pubblico e privato e tra pubblico e pubblico. Ok? Perché? Perché ti interessava, per far entrare il privato, ti interessava che le attività di erogazione fossero sganciate, sganciate dall'ente regolatore. Il resto in Italia cosa succedeva invece? Che non era così. Nel resto d'Italia le ASL continuavano ad essere organizzazioni che in modo integrato si occupavano di regolazione e di erogazione, di ospedali e di territorio. Non c'era la separazione regolazione-erogazione, se non per quanto riguarda le AO, però è tutto molto complicato. Quello che vorrei farvi capire è che esistono però dei punti fermi che devono essere compresi perché fanno la differenza tra noi e tutto il resto del paese, che non è mai stata detta, che non si è voluta in qualche modo evidenziare, perché se si fosse evidenziata si sarebbe scoperto che la Lombardia era apripista in questa direzione, ovviamente, e qualcuno forse avrebbe reagito nel resto d'Italia. Invece le cose sono state, come dire, no? Diluite, negate, affermate a seconda dei contesti, no? Quando serviva dire che erano più bravi degli altri e che avevano fatto qualcosa di innovativo, lo affermavano. Quando si trattava di capire che se avessero affermato troppo questa cosa qualcuno si sarebbe potuto organizzare contro, allora bisognava acquietarsi e non parlare ancora di questo. Allora, sostanzialmente ve l'ho detto, adesso io non voglio entrare in termini, in dettagli troppo tecnici, però datemi un cenno se questa cosa è comprensibile o no per chi non ha, ecco, io penso che possa essere compresa questa cosa, no, della separazione tra la regolazione e l'erogazione al fine di far entrare soggetti privati che eroghino e che poi tu accrediti eccetera eccetera eccetera. Ok, va bene. Allora, questo l'abbiamo detto, io questo lo vorrei anche saltare visto che non vorrei trattenervi troppo su questo. Allora, invece è importante ribadire che nessuna regione italiana ha la stessa articolazione organizzativa in sanità della Lombardia. L'avete mai sentito dire questo? Secondo me no, No? Anche quelli che fanno i consulenti all'interno della regione, eccetera, non lo dicono e non intendono dirlo. Okay? Allora, le differenze, ribadiamole, sono separazione netta tra enti territoriali di sola regolazione ed enti di sola erogazione. Anche se non mancano dei pasticci che sono stati introdotti in vari momenti nelle diverse riforme. Una delle ultime, Fontana-Moratti, ha appunto pasticciato bene anche la materia. Poi solo in Lombardia esistono aziende pubbliche sociosanitarie di sola erogazione, quello che ho detto, che si occupano di assistenza ospedaliera e di assistenza territoriale. Però che cosa succede? A livello nazionale, noi che andiamo a vedere un po' di documenti anche in ambito nazionale, scopriamo che il Ministero della Salute nelle sue statistiche non rileva questa significativa differenza e colloca le ASST talvolta tra le ASL, quindi le mette nella categoria delle ASL, come se fossero integrate e fossero di regolazione e di erogazione insieme. E tra l'altra le mette tra le aziende ospedaliere. Cioè, e nell'uno, nell'altro, vanno bene come classificazioni, perché nella prima, nelle ASL, manca l'integrazione, no? E manca quindi la regolazione, per quanto riguarda le strutture lombarde. Nella seconda manca il territorio. Non può andare bene neanche la O, perché lì nella O c'è solo l'ospedale. Quindi niente. Caratteristiche distintive del Servizio Sanitario Lombardia. Beh, a me sono venute in mente queste due, poi ovviamente ci potrebbero essere anche altre cose da rilevare, però le due principali sono queste. Massima diffusione del privato profit e occultamento della sua presenza. Questo è il punto. Occultamento della sua presenza. Le statistiche che noi siamo andati a reperire per portarvi i dati oggi sono sicuramente insufficienti nella rilevazione del dato di realtà. Per dei meccanismi di attribuzione, cioè per come vengono rilevati i fenomeni, e mi viene da dire che appositamente vengono rilevati in quel modo, così si vede meno. Ok, secondo aspetto molto importante e che caratterizza la Lombardia è l'ibridazione in massimo grado e in tutti i modi possibili del soggetto pubblico con il soggetto privato. Cioè hanno tentato di far entrare il privato sempre di più nel pubblico e di scorporare dal pubblico degli ambiti di attività che venivano affidati al privato. Non solo le, diciamo così, le attività che potevano essere secondarie, no? Come può avvenire in un qualsiasi settore industriale, che tu esternalizzi delle attività che non sono centrali per la tua missione. No, non solo quello, ma anche le attività che sono la specifica sostanza della tua missione organizzativa. Quindi anche le attività sociosanitarie. Quindi, cosa vediamo? Gli IRCCS pubblici, sapete cosa sono gli IRCCS? Va detto, sono gli istituti di ricerca, di ricovero e cura a carattere scientifico. Cioè sono praticamente degli ospedali di massimo livello qualitativo, ai quali viene, come dire, da teoricamente, poi bisognerebbe vedere, ma comunque questa è la promozione, no? Quando un ospedale viene promosso in IRCCS è perché gli si, come dire, attribuisce una qualità di assistenza e soprattutto di ricerca clinica, no? Adattata al servizio, particolarmente elevata. Okay. Allora, gli IRCCS pubblici sono fondazioni di partecipazione, quindi hanno già, come dire, sono praticamente misti, sono una forma istituzionale mista, non sono esclusivamente pubblici. E quindi sono partecipazioni pubblico-privato e anche le ASST si stanno trasformando in fondazioni in alcuni casi o vengono affiancate da fondazioni. Poi ci sono gli ospedali pubblici all'interno dei propri edifici che ospitano organizzazioni private che gestiscono specifici servizi sociosanitari in porzioni della struttura. Per esempio, appunto, negli IRCCS pubblici e nel polo ospedaliero delle ASST vengono, come dire, affidati a terzi i reparti di maternità, i reparti per la dialisi, i reparti di odontoiatria, eccetera. Anche le strutture che costituiscono la cosiddetta infrastruttura territoriale pubblica, tra virgolette pubblica, perché appunto vanno messe molte virgolette, ospitano anch'esse organizzazioni private che gestiscono specifici servizi sociosanitari, per esempio nelle cosiddette case della comunità, che lo certifica il Ministero della Salute in Lombardia, complete sono solo 10, no? Sono solo 10, lo ha detto il 31 dicembre del 2024. Anche lì ci sono le cooperative dei medici di base, che sono delle organizzazioni private con dei propri obiettivi, delle proprie finalità. Ci sono dei consultori privati, eccetera. Quindi anche in questo caso l'ibridazione è massima. Quindi la prima condizione l'abbiamo praticamente realizzata. Vediamo come si è realizzato la seconda condizione importante per la privatizzazione. Beh, è stato smantellato o trasferito tutto quello che era a livello di territorio sotto la gestione diretta degli ospedali, questo in epoca formigoniana. Lo snaturamento dei distretti, cioè, è avvenuto, per cui io quando li chiamo distretti non distretti, perché sono nominalmente dei distretti, ma non sono dei distretti, cioè ben altra cosa un distretto. E poi l'annullamento della logica di servizio rivolta ai residenti di un territorio, cioè tu fai un distretto, però non ritieni che quella popolazione residente sia il principale utente di riferimento e che debba essere servito da tutto quello che tu rendi disponibile su quel territorio, inteso come strutture di erogazione. Beh, però lo smantellamento e l'insignificanza dei distretti in Lombardia sarebbero continuati nel silenzio generale se non fosse improvvisamente apparso il PNRR. Allora, cosa succede? Che per non perdere cospicui finanziamenti la regione si è resa quindi disponibile a ricostituire una sorta di infrastruttura territoriale pubblica in forza del PNRR e anche del successivo decreto ministeriale del 77 del 2022. Ok, allora dicono che vogliono fare l'infrastruttura territoriale pubblica. È così che avviene? No, vedremo poi che non è così. Cioè non è un'infrastruttura territoriale pubblica. Comunque ci siamo. Adesso è in atto uno scontro tra due logiche. Allora, quelli che ritengono che il territorio sia importante continuano a pensare che i distretti siano veri distretti e vogliono che funzionino come tali. Dall'altra parte c'è la regione che invece va in tutt'altra direzione. Quindi logica territoriale rivitalizzata dall'esterno, cioè dal PNRR, basata sui distretti, sull'epidemiologia, sull'analisi dei bisogni di un territorio, sul fatto che quegli abitanti vengano serviti dalle strutture del territorio, cioè concetti chiari, no? Chiari, molto, molto. Ritorno al territorio, ritorno a dei vincoli territoriali importanti, anche per conoscere qual è lo stato di salute delle persone che abitano quei territori. E l'altra è la logica privatistica, totalmente deterritorializzata, basata su una domanda potenziale di salute di varia provenienza. Non si fermano naturalmente, ovviamente no al distretto, no alla regione, no, non solo, no, ma anche si va oltre, extra regione, extra nazione. Vi ricorderete, ci sono stati dei programmi televisivi sui, no, telegiornali regionali, dove c'erano gli esponenti della Bocconi che dicevano che bisognava fare della sanità un polo di attrazione, no, per altri utenti provenienti da altri paesi. Ecco, quindi vedete, il territorio qui non c'entra, c'entra invece il discorso del posizionamento strategico di mercato, no, di mercato. Quindi in questa logica è totalmente irrilevante il criterio territoriale e quindi dei distretti. E noi vi faremo vedere perché, cioè vi diamo le prove di questa assoluta non rilevanza. Poi, questa, anche se ci fosse qualcuno che volesse oggi avere la logica territoriale con questo tipo di strutture organizzative presenti in Lombardia, non riuscirebbe a realizzarla, perché sono costruite in modo tale che è impossibile realizzare una politica territoriale. Cioè, mi spiego, Le strutture di base, intendo le ATS, cioè le agenzie di tutela della salute, che sono otto, e non sono più su base provinciale, che sarebbero 12 se lo fossero, no? E sono state istituite con modalità assolutamente che combinano criteri diversi per la loro definizione territoriale, e le ASST, che abbiamo detto, le aziende sociosanitarie territoriali, che sono insieme capaci di erogare servizi di ospedale e servizi territoriali. Però i servizi territoriali non li sanno erogare, cioè, no? Come vedremo, e quindi da questo punto di vista sono un fallimento le ASST, perché sono partite come ospedali e rimangono ancora tutto sommato centrati su una logica ospedaliera. Quindi organizzativamente queste strutture sono mal concepite. Io lo posso dire perché mi occupo di organizzazione e quando vedo gli organigrammi capisco se sono ben organizzate o no, solo vedendo la struttura. Poi ovviamente c'è tutto il resto che già porta ulteriori complicazioni e difficoltà. Poi sono illeggibili da parte degli operatori, e figuriamoci se sono leggibili per quanto riguarda gli utenti, non se ne capisce nulla. Sono centri decisionali che si sovrappongono e si impediscono reciprocamente sul piano operativo e separano ciò che dovrebbe essere unito e non raccordano in totale trasparenza appunto tutto quello che servirebbe raccordare. Quindi la Lombardia continua dagli anni 90, dalla metà degli anni 90, ad essere governata da una logica mercatistica e privatistica, e cerca in tutti i modi, ancora oggi, la Regione Lombardia di mantenere in vita questa logica facendo un po' di trucchetti, no? In qualche modo, no? Fa intendere una cosa ma poi la contraddice all'interno delle proprie delibere, eccetera, eccetera. Considerando il fatto che le delibere non le legge quasi nessuno e quindi non sappiamo cosa c'è dentro. Ecco, una delle cose che vogliamo fare è di farvi vedere cosa c'è dentro. Okay. Quindi il risultato di tutto questo è che è il caos organizzativo. Siamo in una regione che si è autodefinita l'eccellenza d'Italia, primo posto, e quando è stato fatto il primo studio comparativo a livello nazionale è subito passata dal primo al sesto, no? Quindi cioè, no? Dipende dai criteri, no? Che ti dai di valutazione. Era un centro, diciamo, amico quello che faceva i primi studi comparativi con le altre regioni, no? Che allora era situato in Bicocca, penso che ci sia ancora, no? Okay. Vabbè, insomma, lo dice l'assessore alla sanità e al welfare lombardo: caos organizzativo. E credo che anche le dimissioni di Letizia Moratti siano derivate da questo. Cioè, quando Letizia Moratti, che viene dai settori privati, delle assicurazioni, eccetera, eccetera, e che quindi sa come si gestisce un'azienda, no? Ha visto l'assoluto caos che noi constatiamo giornalmente, no? Della Lombardia, non potendo tenere in piedi le balle stratosferiche che era costretta a dire, no? per dare senso a tutto quello che avveniva, cioè, io penso si è dimessa per questa ragione. Vi ricordo anche un altro fatto fondamentale che inquadra la vicenda. Quando è arrivata Moratti, la prima cosa che ha fatto, dopo le affermazioni di Formigoni, che aveva ammesso che non si era mai fatta programmazione in Lombardia, e Maroni l'ha confermato, arriva lei e che cosa fa? Chiama un gruppo di manager dal Veneto, perché in Lombardia non c'erano posizioni dirigenziali, manageriali, tali da capire come si facesse una programmazione. Quindi li ha chiamati per fare la programmazione in Lombardia. Ok? Non ci sono riusciti più di tanto neanche loro, perché poi lei è andata e loro con lei praticamente, perché poi sono stati messi alla porta in tempi piuttosto brevi. Ok, questo per darvi, no, anche come dire, gli aspetti più interessanti, no, che stanno un po' sotto queste cose. Privatizzazione del soggetto pubblico in Lombardia. Allora, quello che è più rilevante e che è forse il danno maggiore che è stato fatto al nostro servizio sanitario regionale è che il soggetto pubblico è diventato un'azienda. Un'azienda con tutto quello che comporta essere un'azienda. Quindi priorità data al bilancio, modificazioni lessicali, non siamo più pazienti o utenti o portatori di diritti, eccetera, ma siamo clienti. Non è più un'attività di servizio, ma è una produzione, no? Con tutto quello che ne consegue, perché siamo arrivati ai tempi e metodi adesso, no? nella sanità, i 15 minuti per rapportarsi al paziente, eccetera, che non devono essere, come dire, superati. Poi nel privato questi diventano 5, no? Questi 15 diventano 5, vabbè. Poi la deterritorializzazione di cui abbiamo detto, che porta a uno spiazzamento dell'utente che non sa dove deve andare, cioè è l'intera regione adesso, no? L'ambito di possibile erogazione del servizio, è pazzesco, no? Se uno pensa ad una persona anziana, sola, no? Con difficoltà di movimento, che deve andare dall'altra parte della regione per accedere ad un servizio, siamo alla follia pura. Poi azienda, indicatori economici e volumi prestazionali, analisi SWOT, no? Quindi punti di forza, punti di debolezza dell'azienda, come se si trattasse di un'azienda normale. E tutto in una logica di mantenimento in vita dell'organizzazione, non di servizio dell'utente. Dov'è la centralità del paziente? La centralità è il mantenimento in vita dell'organizzazione, no? Quindi è uno stravolgimento totale. Mentre si dovrebbero invece, no, rilevare gli indicatori epidemiologici di risultato in termini di aumento dei livelli della salute. Questo è il punto, no? Ma questa aziendalizzazione ha stravolto tutto e ha rimescolato tutto, per cui il paziente è diventato uno stakeholder, cioè un portatore di interessi, e viene messo tra gli altri esattamente come gli altri. E noi abbiamo un articolo 32 della Costituzione che dice invece che siamo portatori di diritto fondamentale, tutta un'altra cosa. Poi decisionismo contro la partecipazione, non c'è più livello di partecipazione, anche perché abbiamo detto come facciamo a partecipare in una situazione in cui non comprendiamo nulla di quello che sta succedendo. Poi cultura e organizzazione del lavoro di tipo industriale, come vi ho detto, con tempi e metodi, eccetera. Poi spinta verso l'esternalizzazione anche dei servizi propri della missione sociosanitaria, abbiamo detto ibridazione della natura pubblica con la privata, forme istituzionali miste, costruzione dei mercati e favori ai privati. Ecco, io mi sono occupata di questo in un'attività recente di studio. E cioè di capire come sono stati costruiti i mercati nella sanità lombarda e sono stati costruiti, cioè, utilizzando due tipi di comportamento opposti all'interno di due sfere di azione opposte. Dentro il pubblico, depotenziamento, decostruzione, definanziamento, eccetera. Dentro il privato, favori di ogni genere, no? Riordino dei servizi pubblici per favorire l'entrata del privato, eccetera. Quindi tutto questo è stato, come dire, la strategia esplicita di chi ci ha governato dagli anni 90, dalla metà degli anni 90 fino ad oggi. Dinamiche concorrenziali, segreti commerciali e tutele dell'immagine, pazzesco. Cioè io sono dentro una organizzazione pubblica e vengo denunciato se esprimo un pensiero che non è quello del direttore dell'azienda. Cioè, quindi non è possibile fare nessuna azione di miglioramento della situazione, perché non ti viene consentito nemmeno di indicare dove stanno i problemi, no? Ecco. E se uno lo fa, poi viene denunciato. Cioè, io mi ricordo il caso di un medico primario del Sacco, mi pare che fosse, che ha rilasciato un'intervista in cui diceva la riforma Moratti è uno schifo, cioè non lo diceva così, ovviamente, lo dice in un altro modo, l'hanno tolto dall'attività di insegnamento e gli hanno anche creato, l'hanno demansionato non solo nelle università, e gli hanno tolto dei soldi. Prima anche durante la pandemia a San Paolo è successo che San Carlo. fatto, che avevano fatto del pronto soccorso, che avevano fatto delle, una lettera firmata pubblicamente. Esatto, e succede, questo succede regolarmente. A causa delle condizioni di lavoro erano costrette a scegliere chi curare e chi lasciare. Esatto, me la ricordo benissimo quella vicenda terribile. E vabbè, e che era gravissima questa cosa, per cui non è che si potesse far finta di niente e lasciarla passare, quindi bisognava denunciarla sta cosa, vabbè. Poi le persone ci hanno rimesso singolarmente. Ecco, un caso interessante è questo, le strutture di erogazione pubbliche lombarde si percepiscono come aziende private dentro un mercato concorrenziale, e questo è il caso giornalistico più rilevante che ci spiega questa cosa. Cioè, la CGIL chiede alla SST di Bergamo, Ovest, di far avere i dati per cominciare a ragionare sulle attività, no, riferite ai ricoveri nel periodo della pandemia, cioè dal 2020, anzi loro hanno chiesto dal 2019 per avere un termine di paragone, no? Fino all'anno 2021. Che cosa fa? La SST risponde, cioè il direttore generale della SST risponde dicendo che, in soldoni, che la SST afferma che il segreto, la SST dice che il segreto commerciale le impedisce la pubblicizzazione dei dati. Ma come, sei una struttura pubblica, cioè il cardine, l'organizzazione di base, no, del Servizio Sanitario Nazionale di una regione, e dici che non puoi darci i dati? Ecco, cioè, siamo al paradosso, all'assurdo, ok. E non credo, perché poi c'è questa logica concorrenziale continua. Sì, sì, però c'è una, certo che ci sono le norme sulla trasparenza, ma la Lombardia ritiene di essere capace di soddisfare quelle norme. La motivazione è proprio lì sotto, quella lì è semplicemente una... Sì, lo so. Sì, c'è, ci sono, ma ci sono delle cose che sono incongruenti tra di loro. Però mi chiedevo come finita, nel senso che poi la CGL cosa ha fatto? Si è accontentata della risposta? No, questo no. Ci sono state delle cose... Cosa è andata avanti, sì. Il problema è che questa... Diciamo la questione è... Appunto, la questione è proprio stata di interpretazione, no? Per cui loro dicono che, come potete leggere lì, l'assoggettamento all'accesso civico, come indicato nel comma 2 della lettera C, la prima lettera 9, si fa presente in particolare riferimento alla necessità di tutelare, escludendone l'assoggettamento all'accesso civico, come indicato nel comma 2 della lettera C, la predetta norma, appunto, gli interessi economico-commerciali della scrivente SST qualificabili quali segreti commerciali. Cioè loro hanno detto, siccome questa cosa qui rientra nei segreti commerciali, esce dalle tutele. Dopo la diatriba è continuata, ma alla fine questi dati non sono saltati fuori. Ecco. E anche lì, cioè, sì. Io faccio anche semplicemente questo, così, questa, diciamo così, questa cosa di vita vissuta, perché è una cosa che capita a me ogni anno. Ogni anno io ho la richiesta da parte di diversi consiglieri regionali di opposizione, perché ormai da 30 anni a questa parte sono sempre stati di opposizione, i quali chiedono a me il numero delle IVG, il numero degli aborti spontanei, sono le interruzioni volontarie di gravidanza, per cui gli aborti, il numero di aborti spontanei, il numero del personale della ginecologia che decide di non fare gli aborti, per capirci. Allora, questi numeri qui, loro, cioè la regione, li ha mensilmente. E io non riesco a capire come diavolo i consiglieri di opposizione da anni continuano a chiedere queste cose indipendentemente a questo punto a SST per SST, per cui dopo loro devono mettere insieme il tutto per tirare fuori qualcosa. Nel momento in cui la Regione Lombardia ha un ufficio, che l'ufficio si chiama Ufficio Epidemiologico, ma che esiste da anni, no? E che mi chiedo come mai loro non facciano riferimento a quell'ufficio. Perché nel momento in cui... Certo, cioè, per cui c'è proprio una confusione totale a tutti i livelli, io credo. Certo, sono d'accordo. E con l'intelligenza artificiale mi veniva da ridere in questi giorni pensando a... No, l'intelligenza artificiale va a beccare tutto quello che circola, no? Sulla rete, eh? Ma se va a beccare le cose della Regione Lombardia ne esce pazza l'intelligenza, perché sono informazioni del tutto sballate, cioè trovate, non so, che un distretto è un altro, che un ASST si chiama così ma invece si chiama cos'ha, cioè è assurdo, cioè non ci si crede se non ci si mette il naso in queste cose, davvero non ci potevamo credere nemmeno noi, no? E invece poi è proprio andata così. Adesso volevo farvi vedere l'assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale Lombardia così come l'ha descritto Letizia Moratti prima di fare la sua riforma. Allora, qui vedete vari livelli, no? L'assessorato al welfare, dall'indirizzo politico, la Direzione Generale Welfare che dovrebbe occuparsi di programmazione, ma vi ho detto quale programmazione. La programmazione per loro è quanti soldi abbiamo, a chi li diamo, quella è la programmazione, no? Quindi budgeting, non è programmazione sanitaria questa, no? Ok. Poi ATS, enti di regolazione, quindi quelli che decidono come poi le cose vengono fatte dagli erogatori, no? Ok. E poi l'ultimo livello è il livello degli erogatori, no? Quelli sono tutti gli erogatori, ok? Allora vediamo che ci sono le ASST che sono 27, no? E qui sono enumerate, poi eccetera, sono 27. Poi vedete che c'è un riquadro che include le aziende ospedaliere pubbliche e gli IRCS. Allora, se io vi faccio la domanda, in quel rettangolino, secondo voi gli IRCS, essendo le AO pubbliche, no? In quel rettangolino sono gli IRCS pubblici? Sono pubblici gli IRCS? Secondo questo schema? Sì, perché poi gli erogatori privati vengono indicati a parte come se fossero tutti là, ok? Bene, qua c'è un grande imbroglio invece. Allora, vediamo quali sono le cose da rilevare. Prima di tutto c'è un lessico aziendalistico, ovviamente, no? Perché abbiamo detto che la riforma è stata in quella direzione. C'è una cultura industriale mentre siamo in un ambito di servizio e si chiama produzione. La direzione welfare dicono che svolge la principale funzione di programmazione, ma in realtà, come abbiamo visto, con tutto il periodo formigoniano e fino a Maroni, fino in fondo, no? La programmazione non è stata fatta. Un parvenza di programmazione, almeno come desiderio, no? È stato un po' introdotto dalla Letizia Moratti, però sapeva benissimo che in un modello che è basato sulla negoziazione con i privati, perché questa è davvero la natura del nostro servizio sanitario regionale, non c'è la programmazione ma c'è la negoziazione con i privati che sono fortissimi e determinano spesso le decisioni del governo della regione. Ok, poi il ruolo della ATS, ecco qui cominciamo a scoprire cosa vuol dire non essere una regione che si basa sul territorio. Le ATS regolano il rapporto con gli erogatori, tra le altre cose. Okay? Quindi acquistano i servizi da tutti gli erogatori, pubblici e privati, perché vengono trattati, dicono loro, nello stesso modo. Ok, bene. Le ATS, voi pensate bene, hanno un territorio di riferimento, regolano le attività e le relazioni con gli erogatori di quel territorio, no? Se no perché dovrebbero essere territorialmente definite, no? Ok. Invece no, in Regione Lombardia c'è una strana cosa, perché siccome c'è questa cosa che va un po' gestita e anche tenuta nascosto, che il privato è più importante del soggetto pubblico, no? Questa è la cosa, i gruppi privati contano di più di tutto, no? All'interno della sanità. Allora cosa succede? Che per quanto riguarda la gestione del rapporto con gli erogatori privati, più si crea un po' di non comprensione, confusione e, come dire, un po' di nebbia, meglio è. Allora cosa succede? Che le ATS di un certo territorio vengono chiamate a realizzare gli accordi con le strutture dei gruppi sanitari privati di altri territori, no? Questo aiuta al fatto che, cioè, aiuta il fatto che così non si sa bene come avvengano le cose, no? Perché c'è sempre qualcun altro che fa qualcosa di diverso, ma che tu non sai che sta per essere fatto o che è stato fatto, ok? Quindi anche questo vi dà un'idea, no, di questa cosa terribile. E poi la cosa che vediamo appunto in questa, scusate, no, devi andare sulla configurazione, ecco, cioè qui vediamo che gli erogatori privati sembrano residuali in questo schema, no? Abbiamo tutta questa presenza di pubblico e gli erogatori privati come fossero poca cosa. Ma sono poca cosa? No, non sono poca cosa. E in più, altro aspetto fondamentale che ho accennato, gli IRCCS non sono, come viene scritto qui, pubblici, ma sono prevalentemente privati e sono, andiamo subito sulle schede della, vediamo dove sono, poi torniamo indietro, perché è fondamentale tornare indietro, ma è più avanti ancora. Scusate, ma bisogna... Eccolo qua. Allora, solo questo. È la numero 74. Non ci abbiamo il numero qui. Oh. Abbiamo... No. Allora, IRCCS... Dopo i consultori... No... 74, però sei nei dintorni, devi andare verso la 74, se no non... Ecco, ok. Allora, qui siamo solo nel territorio di Milano, ok? Milano comune, anzi città metropolitana per essere precisi. Allora, gli IRCCS pubblici sono 3, ok? Gli IRCCS privati sono 10. Cosa vuol dire essere IRCCS? Vuol dire che tu hai una sovvenzione, un finanziamento dello Stato e della Regione per fare ricerca, ok? Quindi vuol dire che solo 3 ospedali pubblici hanno questo tipo di premio, diciamo così, promozione, e sono 10 solo a Milano, no? che invece sono stati promossi IRCCS. Non è finita. Andiamo a vedere questi 3 pubblici in quali condizioni sono, ok? Allora abbiamo un policlinico, il Policlinico Ospedale Maggiore di Milano, IRCCS, che ha dal 2005 un cantiere aperto, no? Doveva essere riqualificato, ristrutturato, eccetera. Bene, sono passati 20 anni e ancora il 70% di quello che ha realizzato il 70% di quello che doveva realizzare. No? È ancora un cantiere aperto. Gli altri 2, il Besta neurologico e la Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori, sono decenni che si dice che devono essere trasferiti, no? dalla loro sede alla Città della Salute a Sesto San Giovanni. Cioè, quindi se in centro praticamente troviamo questi 10, centro, insomma nella parte centrale del Comune di Milano, troviamo questi 10, questi verranno, cioè, portati in periferia oltre che essere stati depotenziati anche con la scusa di riqualificarli. Perché nel momento in cui tu dici lo riqualifico, però tieni il cantiere aperto 20 anni, vuol dire che tutti quelli che andavano lì, nei padiglioni di quell'ospedale, nel frattempo si sono trasferiti presso altri ospedali e guarda caso possono scegliere, ne hanno 10 di IRCS, no? Qualificati, eccetera. Non solo, ma anche gli IRCS hanno, oltre ad avere i finanziamenti per la ricerca, hanno anche una sovratariffazione decisa da Formigoni nel 2010, che fa sì che prendano per i servizi che erogano, al pari di ogni altro ospedale, una sovratariffazione del 15-20%, che oscilla tra questi due poli. Quindi pensate al flusso di risorse che è stato, no, mandato in quella direzione. E stiamo parlando solo di Milano, ma all'interno della regione, cioè questa cosa si sta diffondendo anche nelle altre province, per cui adesso siamo arrivati a 14 IRCS privati e 6 IRCS pubblici a livello regionale, perché nel frattempo sono stati istituiti, anche è stato istituito uno pubblico a Monza per intervento di uno dei partiti d'opposizione, però il trucchetto è stato che l'hanno subito fatto diventare un IRCS pubblico, ma praticamente un IRCS privato, perché c'ha 4 fondazioni, no, dentro, no, private, per cui, cioè, quindi ogni volta che si fa un IRCS, ogni volta che si fa un nuovo ospedale, poi si fanno tutte queste altre cose, no, che servono ad aprire le porte al privato, no? Adesso gli ospedali sono delle specie di grandi magazzini, no? Fanno l'ospedale per fare il grande centro commerciale, no? E lì ci guadagnano tutti, ovviamente, no? Gli interessi dell'utente sono tenuti in bassissima considerazione. Ecco, quindi se voi vedete, ma questa cosa ovviamente, vabbè, allora torniamo. Quello che mi preme di farvi adesso capire è la questione riferita ai mercati. Perché se non capiamo questo, non capiamo cos'è la Lombardia. Ok? I mercati all'interno della sanità. Torniamo indietro. Cioè, se noi abbiamo parlato di queste cose, no, finora, e abbiamo detto che anche le aziende pubbliche si percepiscono come parte di un mercato, adesso andiamo a vedere questa cosa dei mercati. Allora, facciamo vedere un po' queste immagini, solo così per... 37 prima e poi torniamo giù. 37, dove sei? Che numero è? Vabbè, dai, stiamo sui mercati allora. Allora, questo è il policlinico di cui vi ho parlato. Andiamo avanti. 25 anni, 3 anni, 2 anni e mezzo per fare questo, 16 piani, no? Questo è privato, naturalmente, del gruppo San Donato, nell'area ex Expo, l'area cosiddetta MIND, Milano Innovation District. Il distretto funziona, no? Ok, andiamo avanti. E questo è quello che vediamo, no? La differenza tra l'erogatore pubblico e l'erogatore privato. Questo è l'esito del flusso dei finanziamenti, no, erogati al privato. Ok, avanti. Andiamo sui mercati adesso. Allora, gli ultimi decenni in Lombardia sono stati gli anni del ridimensionamento e demolizione della sanità pubblica a velocità variabile, per cui non sempre con la stessa intensità, non sempre con la stessa velocità, ma sempre consistentemente sostenuta, e anche gli anni della costruzione dei mercati in sanità. Adesso vorrei spiegarvi bene questa cosa. Il ridimensionamento del soggetto pubblico, adesso ne parlano tutti, parlano tutti di questa cosa e partono sempre dagli anni 2000, no? Perché vogliono riferirsi al fatto che tutti gli schieramenti politici hanno ridimensionato il pubblico, ed è vero anche, però dimenticano di dire, secondo me perché hanno una qualche ragione per farlo, che qui invece c'è stata una svolta di destra nella metà degli anni 90, e da lì che è partito il ridimensionamento, no? Ed è stato brutale. Ok, e qui c'è stato un impatto maggiore. Io l'ho documentato in un libro questo, cioè dicono è uguale, no, molto maggiore qua. Ok, allora i mercati della sanità lombarda sono 3, ok? C'è il cosiddetto quasi mercato, quello di cui abbiamo fatto un esempio, no? L'abbiamo fatto parlando della SST di Bergamo e della CGL. Quello è il mercato, quasi mercato. Perché lo chiamano quasi mercato? Perché è un mercato regolato, regolato dal pubblico. E quindi quello è l'SSR, in senso stretto è l'SSR. Poi c'è un mercato diretto della sanità, del socio sanitario, e poi c'è un mercato intermediato. Allora, gli altri due, il diretto è quel mercato dentro il quale il privato fa quello che vuole, ok? L'intermediato è quello in cui entra in gioco un intermediario. Chi è? La compagnia di assicurazione, la mutua, i fondi, eccetera. Il mercato diretto e quello intermediato hanno avuto un notevole sviluppo soprattutto in Lombardia, più che in altre parti del paese. Però qual è il problema? Il problema è che noi siamo tutti, cioè messi sotto, diciamo, siamo oggetto di attenzione particolare, perché il mercato diretto ci vuole conquistare. È il mercato diretto che ci vuole conquistare, e in questo periodo ci ha conquistato. Le liste d'attesa, no? Ci hanno portato a farci prendere dal mercato diretto. Però, quindi la cosa da dire è che questi tre mercati di cui ho parlato sono stati tutti istituiti dall'ente regione. L'ente regione non solo ha determinato le caratteristiche del servizio sanitario regionale, ma ha anche costruito e facilitato gli altri due mercati. Ma la cosa più rilevante e grave è che questi tre mercati agiscono sulla stessa sede di erogazione. Vi spiego. Andiamo nelle sedi della sanità privata e lì che cosa facciamo? Troviamo un menu di servizi fra cui scegliere, e diventi per il privato un cliente da conquistare al suo mercato diretto. E andiamo a vedere. Allora, quindi dalla seconda metà degli anni 90 noi di fatto siamo andati sempre più configurando questo quasi mercato del servizio sanitario regionale. E da origini anglosassoni queste. Che cosa fa il privato dentro il quasi mercato? Seguitemi perché è importante. La sanità privata convenzionata con il servizio sanitario regionale, le cui strutture, le strutture della sanità privata vengono autorizzate, accreditate e messe a contratto, ok? Bene, è vincolata in un certo senso al servizio sanitario pubblico. Però nella sostanza delle cose abbiamo potuto constatare che lo è in modo molto blando e sostanzialmente di facciata. E quindi cosa succede? Che il privato offre servizi per conto dell'SSR, l'SSR rimborsa i servizi, semplicemente questo. Con ciò il privato entra in una sorta di regime di rendita molto vantaggioso, da cui non si prevede un'uscita per decisione del servizio sanitario regionale. Cioè mai nella storia della sanità lombarda, neanche di fronte ai più terribili, le più terribili inadempienze, le catastrofi più grosse, mai nessun privato è stato fatto uscire dal servizio sanitario regionale. Hanno mantenuto le stesse gestioni, hanno cambiato il nome dell'ospedale. Quindi non ci sono stati casi di espulsione. Mentre il privato potrebbe decidere di interrompere il rapporto con il servizio sanitario regionale alla scadenza annuale del contratto di fornitura. Cioè se il gruppo San Donato decidesse di smantellarsi e di rimettersi, non so, in gioco totalmente in Africa, cosa che ha già cominciato a fare da tempo, no? Ecco, noi cosa faremmo? Avremmo perso una quota parte dell'erogatore, delle erogazioni dei servizi, e non avremo la possibilità di come dire, tamponare la cosa. È nelle sue facoltà di fare quello che vuole, no? Può farlo da un momento all'altro se lo decide. Con questa turbolenza dei mercati, no? Di vario genere, può succedere di tutto. Poi c'è, dicevamo, il mercato diretto e il mercato intermediato. Allora, ripeto, sono stati costruiti dal governo e hanno avuto soprattutto un sviluppo particolare in Lombardia più che altrove. Io ho trovato delle delibere dove veniva proprio scritto costruzione dei mercati alternativi. Delibere che naturalmente non sono state rese pubbliche, cioè non c'erano sul bollettino ufficiale della regione. Le ho trovate per caso, perché alcune delibere non vengono pubblicizzate, le ho trovate per caso in un sito di una ASST che si era dimenticata di toglierlo, probabilmente gliel'avevano detto di non pubblicarlo, però insomma l'ho trovata, c'era un numero, una data, ci sono. E allora vediamo che cos'è il mercato intermediato. No, prima vediamo il mercato diretto. La sanità privata, dicevamo, qui è totalmente libera di fare quello che desidera. Servizi da offrire, può decidere di andare in un settore piuttosto che in un altro. Con quali prezzi erogare quei servizi? Durante la pandemia abbiamo visto delle cose ignobili, no? Cioè la vendita di servizi essenziali per la salute del cittadino a 400 euro perché sapevano che la gente era disperata e che andava alla ricerca di quella cosa. E anche le modalità di impiego del personale, decisi da loro. Come lo recluto, come lo pago, quanto lo faccio lavorare, eccetera. Quindi prezzi, tempi di erogazione, modalità di utilizzo del personale diventano leve di marketing, cioè strumenti di espansione delle vendite. Quindi posso giocare, no, su questi elementi per poter rendere attrattivo quel servizio per il tipo di cliente A, B o C. Quello che ha più denaro, quello che ne ha meno, quello che ha bisogno di tempi più brevi, quello che può invece aspettare, eccetera. Quindi chi usufruisce di questi servizi del mercato diretto sborsa di tasca propria, no? I soldi che l'azienda gli chiede. Poi c'è il mercato intermediato. La sanità privata si accorda con le assicurazioni bancarie, le compagnie assicurative, le mutue, i fondi, sui prezzi dei propri servizi che vende ai soggetti intermediari, cioè quindi le compagnie, e si incarica di erogare questi servizi agli assicurati di questi intermediari. Chi usufruisce individualmente di questi servizi attraverso le polizze individuali dovrà sostenere costi diretti, nel senso che dovrà pagare premi più o meno elevati a chi svolge il ruolo di intermediazione. I premi naturalmente variano secondo l'età, secondo lo stato di salute dell'assicurato, secondo il tipo di copertura assicurativa dei servizi pattuita con l'assicurazione, ampia o ridotta a seconda anche delle capacità di spesa dell'assicurato. Naturalmente sulla base dei premi che tu paghi, no, ti viene corrisposto un servizio che però non è mai come generalmente hai stabilito, c'è sempre qualche, come dire, trucchetto che ti porta a non avere tutto quello che tu pensavi di poter avere, e comunque le condizioni saranno imposte dall'intermediario. Anche le polizze di cui parlava prima Pino, no? Le polizze del welfare rientrano in questo mercato intermediato. Ok, ma e qui veniamo alla questione fondamentale. Questi tre mercati sono compresenti nella stessa sede privata. Ed è questa la ragione che io ritengo principale per la quale non si è ancora arrivati ad un CUP. Mi spiego. Quindi il Servizio Sanitario Regionale Lombardo consente alla sanità privata di attivare questi tre mercati della sanità nella stessa sede privata di erogazione dove vengono erogati i servizi per il Servizio Sanitario Nazionale, pattuiti nei budget del contratto con il Servizio Sanitario Regionale. Beh, questa compresenza dei mercati è alla base della gestione impropria da parte dei privati delle liste di attesa e della persistente loro non volontà di realizzazione del centro unico di prenotazione. Perché? La compresenza dei mercati, laddove si entra in contatto con il cittadino che chiede un servizio per il Servizio Sanitario Regionale, costituisce la precondizione per accaparrarsi quell'utente, quindi per, no, fornirgli altre strade per ottenere altri tipi di servizio. Quindi il CUP non permetterebbe alla sanità privata di gestire in proprio la trasmutazione del servizio sanitario nazionale in un servizio in regime di mercato diretto a pagamento. Quindi è per questo che non lo vogliono fare, perché sarebbero impediti in questo giochetto. Come possiamo toccare con mano l'esistenza di questi mercati? Beh, basta entrare, basta osservare presso le sedi di erogazione della sanità privata il catalogo menu dei servizi erogati. Eccolo qua, il catalogo menu. Questi sono i tre mercati, belli esposti. Allora, abbiamo in verde il Servizio Sanitario Nazionale, il blu e il rosso è il mercato diretto, no? Due fasce di prezzo, Smart, più bassa, e Plus, privato, quindi no, più alta, con differenti, no, condizioni di servizio. Puoi scegliere o non scegliere il medico, in tempi più brevi o più lunghi, no? Eccetera, no? Quindi condizioni diverse. E l'ultimo, in blu, è quello appunto intermediato, ok, che poi appunto è quello che viene detto in questa slide. Ma un'altra cosa, i tre mercati sono collocati nello spazio di erogazione dei servizi presso il privato. È evidente la svalorizzazione che viene fatta dal privato di tutto ciò che viene erogato in termini di servizio sanitario regionale e nazionale. Perché se vedete questa foto, guardate quella segnaletica arancione là e troverete che gli accreditati del Servizio Sanitario Nazionale devono andare nel piano seminterrato. Cioè, quindi è evidente che insomma non viene, viene evidentemente simbolicamente messo in evidenza che non è così importante. Però noi gli stiamo dando la possibilità di fare profitti erogando i servizi sanitari del Servizio Sanitario Regionale. I sistemi, ecco, e qui entriamo nel merito di quanto ci viene detto di quanto è privatizzata la Regione Lombardia. Non ci viene detto abbastanza bene e quindi non sappiamo quali sono i metodi e i criteri di rilevazione del dato e dobbiamo sempre fare delle ricerche empiriche per verificare se quello che ci viene detto in realtà è davvero quello che è in realtà. Allora, vediamo il caso della SINLAB, no? Adesso ne parlerà anche lui. Se noi andiamo a vedere dove è indicata la SINLAB, non la troveremo praticamente, perché la troviamo in un'altra provincia. Perché? Sì, no, niente, qui era per sottolineare l'aspetto appunto dei dati che sono a disposizione. Ogni anno la Regione Lombardia fa un elenco che viene messo a disposizione come diciamo così liberamente, dove vengono inseriti le realtà accreditate in Regione Lombardia e ci sono appunto tutte le realtà accreditate. Nel fare questo lavoro che era incentrato su Milano, perché chiaramente essendo una grande città ha delle specificità, la prima cosa che abbiamo fatto chiaramente era andare a verificare quali erano le realtà accreditate e all'interno di queste realtà accreditate su Milano ci siamo resi conto che SINLAB non esisteva. Mi pare strana, perché credo che SINLAB lo conosciate tutti, a meno che non lo so, ecco. Il problema cos'è che era? Ad esempio questo, che andando a cercare non più sul sito della regione dai dati ufficiali, ma sul sito di SINLAB, lo stesso SINLAB esponeva su Milano questi che sono i 22 punti prelievo. Qui appunto poi sono stati suddivisi anche per i municipi. Per quale motivo? Appunto per quello che diceva prima Maria Elisa, perché all'interno del punto prelievi, che non ha bisogno di essere accreditato su Milano, perché il punto prelievo, essendo un servizio superficiale, di fatto viene legato alla sede del laboratorio, E in questo caso il laboratorio di Sinlab ne ha tre, ne ha uno in provincia di Lecco, uno in provincia di Como e uno a Brescia. Per cui in realtà se si va a riprendere appunto quell'elenco che dicevo prima della regione Lombardia, in effetti Sinlab risulta accreditata ma in queste tre province e non a Milano città. Appunto perché diciamo tutto quello che viene fatto a Milano solitamente viene poi inviato a Brescia, e infatti qui proprio salta fuori l'altro problema di cui ci eravamo resi conto sui dati, perché sembra che per quanto riguarda la parte ambulatoriale tantissime persone, tantissime prestazioni ambulatoriali erogate da Sinlab vengono erogate però a Castenedolo. E allora io mi sono chiesto, ma come mai da Milano ci sono così tante persone che vanno a Castenedolo a fare la prestazione? Il motivo è questo, è perché quelli sono esclusivamente delle prestazioni prelievo, no? Prelievo sanguigno, che vengono poi trasportate nel laboratorio di Castenedolo. Per cui se voi andate a vedere, poi vi farò vedere le cartine, vedete che nel momento in cui andate a verificare dove le persone di un certo municipio vanno a fare una certa prestazione, troverete una bella quota in provincia di Brescia a Castenedolo. E la motivazione è questa. Questo appunto per dire che i dati, ancora una volta, non sono per nulla chiari, certo, e che devono essere sempre interpretati. Vai tre successivi. Ecco, scusa. Questo? Qui, presenza. Così. Ah, questo qui, ok. Adesso parliamo di questo, della presenza del privato nel Servizio Sanitario Nazionale della Lombardia, della TS di Milano e della città di Milano. Allora, andiamo subito a vedere la presenza del privato. Questi sono i dati che sono i dati che nascondono, tendono a nascondere la presenza del privato, e vedrete che sproporzione comunque c'è. Cioè già così è al di là dell'accettabile, no? Ecco, quindi, allora, però andiamo subito alla sintesi, che così vediamo il dato. Allora, questa è la sintesi. Allora, tutte le strutture private in Lombardia sono il 77% del totale delle strutture di erogazione. Avete capito bene? Le strutture private di erogazione sono il 100% delle totali nei seguenti ambiti: ricovero a ciclo diurno, strutture neuropsichiatriche infantili, strutture psichiatriche, strutture di raccolta sangue. Sempre facendo poi, no, mettendo sempre un punto di domanda, perché questi sono i dati della regione. Poi le strutture private oscillano tra il 73% e il 97% del totale delle strutture di erogazione, negli ambulatori sono il 73%, nelle cure subacute sono il 75%, nei servizi di medicina di laboratorio sono l'80%, ed era molto di più prima della pandemia, ambulatori di medicina sportiva 97%. Le strutture private di ricovero e cura invece sono il 46% delle strutture totali. Quindi vedete che nell'ambito dei ricoveri le cose si mettono metà e metà praticamente. Qui si vede, sì. La parte rossa sono i privati, mentre invece la parte blu sono i pubblici. E questi sono, ripeto, i dati che vi dicevo prima, cioè sono i dati ufficiali della Regione Lombardia, come leggete sotto, delle strutture accreditate in tutta la regione. Chiaramente bisogna appunto, come giustamente non so se mi sentite, vabbè. Come giustamente diceva Maria Elisa, bisogna tenere presente che la parte relativa appunto alle strutture di ricovero e cura, soprattutto quelle pubbliche, hanno all'interno alcune cose che poi vedete qui anche, diciamo così, segnalate nel privato, per cui lì bisognerebbe poi fare una valutazione sui posti letto. Beh, vediamo qui, in questa vediamo la presenza del privato come è sempre maggiore del pubblico, vedete? Strutture ambulatoriali accreditate suddivise per ATS, no? E la stessa cosa ricovero, no, la stessa cosa, qui è diverso perché il pubblico è un po' più presente, ok, però siamo un po' a metà, no? Il 50% quasi. E, vediamo questo dato qui, che si vede la torta, no? Quindi il rosso è sempre privato, il blu è pubblico. Quindi non si può certamente dire che, no, sia una realtà pubblica la realtà della... Sono quasi tutti pubblici. Esatto, cioè molto diversa la proporzione, certo. Sono, finalmente cominciano ad essere... Non c'è appetibilità. Beh, però, ecco, la cosa interessante è questa, che la città di Milano è ancora più privatizzata del resto della Lombardia, mentre la città metropolitana, includendo l'Odi, perché sapete che la TS di Milano, città metropolitana, include la provincia di Lodi, ok? Quindi è un po' più vicina al resto della Lombardia, ma la città di Milano è sicuramente la più privatizzata di tutto il territorio lombardo. E qui ci sono le... Ecco, per esempio, qui a Milano, sempre sui dati della regione, che continuiamo a dire sono sottostimati, questi sono sottostimati. Struttura privata sono il 77% del totale delle strutture di erogazione, lo stesso qui, come l'altra volta, ci sono degli ambiti dove c'è il 100% di privato, cioè il pubblico non c'è più praticamente. Per quanto riguarda le strutture private di ricovero e cura, qui c'è una diversità a Milano rispetto al resto della regione, perché i privati sono percentualmente più presenti a Milano, il 62%, che in Lombardia 46% nell'ambito dei ricoveri. Okay? Sono 16 punti percentuali in più, tantissimo. E poi ci sono le strutture ambulatoriali, che sono il 73% delle totali, come in Lombardia praticamente. Però questo dato fa nascere dei dubbi, perché il punto è, noi abbiamo visto, prima della pandemia ci avevano dato un dato praticamente simile, io l'ho scritto nel libro prima della pandemia, ed era il 2017 e c'era già il 77% di privato. Poi è arrivata la pandemia, poi si è conclusa la pandemia, il privato si è distribuito laddove poteva, dappertutto, ok? Possibile che dopo tutto questo le percentuali siano ancora le stesse? No. Abbiamo constatato empiricamente che non era così. Li vedevamo aprirsi quotidianamente, no? Le sedi delle strutture. No? Eppure noi abbiamo ancora questo dato sugli open data della Regione Lombardia. Quindi qui il problema della rilevazione è fondamentale. Va bene. E, vabbè, qui sono dettagli che abbiamo sostanzialmente già detto e direi che andiamo oltre. I consultori a Milano sono questi, ricordo in azzurro i pubblici, in rosso, arancione in questo caso, sono i privati. Dell'IRCCS abbiamo già detto, però non vi abbiamo fatto vedere quanto hanno preso come finanziamento, ma ne parleremo dopo. Invece cominciamo a parlare dei municipi. Municipio 5. Quanti di voi sono del Municipio 5? O sanno di esserlo? Perché può anche essere che non si sappia di appartenere. E quanti del Municipio 7? Nessuno. Quindi parliamo del Municipio 5. Ok, e evitiamo di parlare del 7 a questo punto. Va bene, sì. Ok. Allora, questa è la realtà del distretto 5, municipio 5, perché sapete che corrisponde, il municipio corrisponde al distretto sociosanitario. Ok, poi su questa cosa ci sarà da ritornare. Ok, allora, due strutture di medicina di laboratorio, due privati, ma ci saranno poi quelli della SINLAB, boh, probabilmente forse la SINLAB non c'è sul municipio in questo caso, però la rilevazione non sappiamo se è completa. Quello che dico io è che vicino a casa, io sono del 5 come voi, come alcuni di voi, e io vado in un laboratorio vicino a casa che fa i prelievi ed è privato, ma non viene rilevato in questa. Quindi, cioè, per dire che c'è anche questo, no? Che tu hai un'esperienza che poi non viene tradotta nei dati che ti vengono forniti. Poi, per quanto riguarda le strutture ambulatoriali e poliambulatoriali, risultano esserci due strutture pubbliche, quella di via Ripamonti e quella, cioè, adesso non ricordo, come? Come? Non è del 5, è del 6. È via Baroni. Via Baroni è l'altra, ok. Credo ci siano solo dei servizi tipo CPS, però non so. Comunque viene rilevata come ambulatorio nella statistica della regione. Io so benissimo la vicenda qual era, non era 20 anni fa, era un po' meno. Però la vicenda la conosco, no? Che volevano chiuderlo, la gente si è ribellata perché i criteri ovviamente non avevano. Quelli che ci andavano ritenevano una struttura che dava quello che doveva dare, cioè quindi erano contenti di quella struttura, però volevano chiuderla, ok? Però nelle statistiche c'è ancora ed è rilevata come poliambulatorio. Però capite, il problema è cosa ci raccontano di quello che c'è. Infatti, io ripeto, questi sono i dati ufficiali della Regione Lombardia. Vabbè, quindi come, tra l'altro, come istituto di ricovero e cura esiste nella statistica rilevato solo lo IEO. Perché? Perché pur essendo il codice fiscale postale dell'ospedale San Paolo 20142, mi pare che sia quello, ok? E che corrisponderebbe al 5, se tu vai a cercare via Rudinì ti viene fuori distretto 6. Il San Paolo è il 6. E infatti è il 6, però c'è anche lì c'è un'incongruenza, cioè se tu ricerchi, no, i codici fiscali attribuiti ai distretti, ok? Anche lì ti viene data un'informazione non corretta, quindi cioè, ci sarebbe molto da fare per sistemare un po' le cose. Ok, allora vedete, questa è la realtà, insomma, velocemente. E quindi qua vediamo i nomi, no? Vediamo i nomi e le strade, quindi abbiamo rilevato, no? Antonio si è preoccupato proprio di fare questo lavoro di dettaglio per poi, come dire, essere sicuri, no, di quello che abbiamo in mano. Ecco, quindi non ci sono errori, abbiamo controllato e ricontrollato. E poi questo è sui consultori. Abbiamo due consultori privati e uno pubblico. Vi risulta? Perché a questo punto uno deve chiedere a voi, perché... Beh, però quando si sposta è già un bel problema quando si sposta. Ci saranno tutte le dipendenze, ci ho detto insieme, tossicodipendenza e non mi ricordo cos'altro. E rimane tipo, li concentrano tutti là insieme. Oh. Che viene depotenziato continuamente via Baroni, no? Perché anch'io ci vado e vedo che ogni volta che ci vado manca un servizio, viene sottratto la cardiologia è sparita, adesso stanno togliendo la dermatologia, mi pare di aver capito, ma non lo so, fino a poco tempo fa c'era, c'è l'oculista, speriamo che rimanga, no? Però non c'è traccia di questa cosa sui documenti di progettazione, Non c'è traccia di questo, quindi probabilmente se non viene tradotto dentro i documenti non si fa. Se non erro, è semplicemente il passo avanti che è stato fatto e che il piano regolatore consentirebbe a quella struttura di diventare una struttura sanitaria. Ah. Dopodiché, tra avere il piano di e avere l'affitto da parte dell'area, ma la SD passare, eccetera, eccetera, 8 anni, 9 anni, fate voi. Ma anche perché se non c'è dentro il piano PNRR non si fa, eh? Cioè, quindi, cioè il problema è questo, che loro ti possono raccontare, io ho anche, no, assunto dei verbali di qualche assemblea, commissione salute di qualche municipio, eccetera, vedo che poi nel confronto tra comitato di quartiere e presidente del municipio e magari presenza di qualcuno della regione, lì si raccontano un sacco di balle, no? Però, capito, questo è il problema. Tu devi avere una tale informazione per poterli contrastare, perché loro dicono delle cose che sono incongruenti. Tu devi sapere qual è il documento che attesta quelle cose che loro dicono, perché te la raccontano, no? Quindi c'è da fare un lavoro di informazione dettagliatissima per difendersi sulle questioni minime, no? Ma questa non è la prospettiva che noi abbiamo, non possiamo difenderci su ogni singolo fronte, no? È impossibile, dobbiamo avere una visione più ampia, no? E anche non arrivare a discutere quando le cose sono già determinate. Questo è il nostro obiettivo, no? Riuscire a immaginarci cosa stanno facendo, sapere esattamente cosa stanno facendo e anticiparli, dobbiamo anticiparli e dobbiamo, come dire, tagliare la possibilità di avanzamento di quelle proposte che sono un allontanamento continuo dalla nostra idea di servizio pubblico. Cioè noi dobbiamo avere un'idea che ci consenta di valutare le politiche che stanno realizzando ed escludere la fattibilità di alcune, perché ci allontanano sempre di più, questo è il punto. Quindi noi invece ci dobbiamo avvicinare a quell'altra cosa. Andiamo avanti. Adesso, quindi 7 lo saltiamo, perché il finanziamento ne parliamo o no? No, direi di no. Al limite posso dire questa cosa. Sì. Allora, per capire come suddivide il finanziamento pubblico in sanità, infrastrutture pubbliche e private. Diciamo così, bypassiamo la parte del Fondo Sanitario Nazionale, che sapete sono i fondi che arrivano direttamente centralmente dal governo per la sanità. Sarebbe quel famoso 6,5 che poi diventa 6,3, 6,2, ecco, è di questa cosa qui che si parla. Questi soldi vengono poi differenziati annualmente per ogni regione. La regione Lombardia, ovviamente, avendo la popolazione maggiore, ha anche la maggiore fetta, si parla di più di 21 miliardi, quasi 22 ormai. E la questione cos'è però? È che in Lombardia gestisce tutta questa parte? Ovviamente la legge di riferimento per la sanità, che è la legge 33 del 2009, che poi è stata man mano modificata appunto dalle varie modifiche Maroni e poi Moratti e Fontana, ma è sempre quella, cioè è la legge appunto 33 del 2009. Allora, che cosa dice adesso, dopo l'ultima modifica Fontana-Moratti? Come era stato già anticipato prima, si dice in maniera chiara che adesso nei principi ci deve essere l'equivalenza e l'integrazione dell'offerta sanitaria. E perciò c'è la parità di diritti e obblighi, vabbè, sull'obbligo evitiamo, tra erogatore di diritto pubblico e erogatore di diritto privato per appunto accedere a questi fondi che vi ho fatto vedere prima. C'è però un altro aspetto che noi tendiamo sempre a evidenziare un po' dappertutto, e che è quest'altro comma che fa sempre parte dei principi, ripeto, dove si dice che oltre appunto all'equivalenza, all'integrazione, per cui una sorta di parità totale pubblico e privato, come vengono differenziate queste cose a seconda del case mix. Che cos'è il case mix? Praticamente tutto quello che viene, tutte le attività che vengono prodotte all'interno dei vari enti, sia pubblici che privati, e perciò l'allocazione dei budget, cioè i soldi, devono considerare appunto tutto ciò che viene fatto all'interno di questi enti, e poi deve tenere in considerazione anche gli investimenti effettuati. Questo è scritto sulla legge, per cui credo che la cosa sia abbastanza pesante, perché potete capire bene che chi investe, soprattutto il privato, a questo punto dice, lui può dire in maniera chiara che nei principi della legge che determina la sanità in Regione Lombardia, lui può avere in maniera diretta un riscontro dal punto di vista anche economico nei contratti. Per cui sì, prego. Allora, questi due principi che abbiamo appena visto, cioè l'equivalenza integrazione pubblico-privato e il rispetto della struttura dell'offerta del privato e degli investimenti del privato, cioè la regione dice che bisogna rispettare le cose del privato, finiscono per far anteporre gli interessi della sanità privata a quelli del soggetto pubblico. Questo è il punto, secondo me. Quindi è una cosa gravissima questa. Poi, altra cosa, come possono essere considerati rispettosi della Costituzione e dello spirito della 833 del 78 principi di questa natura che abbiamo appena visto? È impossibile. E qua ci domandiamo, i giuristi di diritto amministrativo dove sono? I costituzionalisti, quelli che si occupano di sanità e sono giuristi, dove sono? Cioè, una ricostruzione storica che analizzasse il ruolo del governo centrale nell'effettuare questo esame di legittimità della legge di riforma lombarda, bisognava farlo con particolare, diciamo, attenzione, sia per la riforma di Formigoni, sia per quella di Maroni, sia per quella di Moratti, ovviamente. Ecco, risulterebbe questa cosa da fare e sarebbe del tutto fattibile, no? Però chi è che la fa questa cosa, no? Dicevamo, poi ci siamo trovati di fronte al fatto che il Ministero non ha detto nulla, della Salute non ha detto nulla contro la riforma Fontana-Moratti, che andava invece fermata, perché era la riforma che doveva certificare che le ASST funzionavano, che le ATS funzionavano e che le ASST funzionavano, e quindi poteva essere, come dire, portato avanti il modello lombardo, no? Erano cinque stati gli anni di sperimentazione per quella legge e tutto ci diceva che quella legge non andava bene, ok? Però che cosa c'era? C'era il ministro Speranza, ovviamente, che aveva un suo direttore della GENAS, braccio operativo del ministero, ok? E questi non hanno detto una parola contro questa cosa. Soprattutto il direttore della GENAS si è messo in un rapporto molto stretto con Moratti e gli ha fatto da consulente. Moratti se l'è tenuto vicino e questo, quindi avevamo un ministro che non se ne intendeva abbastanza da poter entrare nel merito, e forse se ne intendeva non ha fatto quello che doveva fare, che si teneva un direttore che andava in un'altra direzione, visibilmente quella direzione della Regione Lombardia. La Moratti, che no, sapeva fare un po', no, in queste cose, si teneva vicino il direttore della GENAS, insomma, alla fine nessuno ha detto niente contro questa legge, tranne, e adesso vi dice lui, chi è che si è... Tranne chi aveva sollevato delle questioni, soprattutto legandole al diritto delle persone di ottenere il servizio sanitario, è stato incredibilmente il MEF, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale appunto ha riportato nella sua nota che questo aspetto doveva essere più tenuto in considerazione. Siccome sono le 5:30 e quindi bisogna sì. Andare sulla, scusate, noi avremo, ve ne siete resi conto, abbiamo una quantità di slide pazzesca e potremo parlare ore e ore. Adesso però abbiamo poco tempo e andiamo a parlare del progetto, perché altrimenti non portate a casa nulla della cosa veramente innovativa che vi volevamo proporre, ok? Ecco, l'unica cosa forse che volevo farvi vedere, ritornando alla diciamo così, alla suddivisione dei soldi tra pubblico e privato, sono questi sono i dati ufficiali dell'ATS di Milano, anche questi pubblici si possono vedere, praticamente già da qui, qui a ognuna di quelle righe corrisponde chiaramente un ente, sopra c'è il pubblico e sotto il privato, qui ho preso due colonne delle tante colonne che ci sono all'interno di questo documento, quelle più importanti, il recovery e l'ambulatoriale, e come potete vedere dai numeri qui, anche se non si vedono benissimo, comunque questa è la suddivisione, per cui siamo effettivamente alla metà, cioè di fatto tutto il fondo, cioè tutti i soldi pubblici che vengono passati dal Ministero alla Regione Lombardia vengono di fatto dati a metà, sia per quanto riguarda le strutture di ricovero sia per quanto riguarda la parte ambulatoriale, per le realtà pubbliche e per le realtà private. Ecco, questo secondo me era importante dirlo. Adesso, se vogliamo vedere progetto, sì, la cosa, torniamo, sì. Se qualcuno poi ha delle domande rispondiamo alle domande, no? E quindi integriamo eventualmente delle informazioni che per voi sono importanti. Allora, diciamo, il progetto che dovrebbe riportare un po' l'idea di quelli che sono appunto i principi cardine della 833, appunto, come raccontava prima Maria Elisa, appunto sono stati è stato fatto una sorta di verifica un po' su tutta Italia, per cui sono state applicate delle idee, appunto riprendendo quelle del 78, applicandole su tutto il territorio, e qui noi riportiamo quello che risulterebbe all'interno del municipio 5, poi ci sarebbe anche il 7, però di Milano. Allora è come diciamo sempre, una cosa che può essere provocatoria, dirompente, anticonformista, innovativa, anche se però riprende appunto tutti gli elementi della 833 e che, se si volesse, si potrebbero anche applicare. Allora, bisogna volerlo. Allora, un attimo che... ecco qui. Allora, ok, no, perché ok, via. Allora, quello che noi diciamo è che ci vorrebbe appunto una riforma non riformista, nel senso che non deve andare a modificare piccole cose in quello che c'è adesso, ma deve essere proprio una riforma profonda. Deve avere chiaramente dei punti fondamentali. Per cui deve essere una riforma che tenga presente che il servizio sanitario deve essere pubblico, gratuito e universale, senza elementi oltre all'universale, che tenga in considerazione l'integrazione sociosanitaria, che prenda in carico direttamente i bisogni delle persone e che abbia come punto cruciale la domiciliarizzazione, la prossimità del servizio. In più, chiaramente, queste cose vanno poi a cadere in una delle cose più importanti, che comunque è una democrazia sanitaria, cioè il fatto che le persone possano partecipare e vedere chiaramente e sapere esattamente che cosa accade all'interno dell'organizzazione in generale. E poi un elemento della non sostenibilità. Perché non sostenibilità con quel non tra parentesi? Perché se la cosa viene vista esclusivamente nella sostenibilità economica, che chiaramente può essere letta in maniera differente a seconda dei vari governi che ci sono. È ovvio che tutto il servizio potrebbe anche non reggere. E allora quello che diciamo noi è che una proposta del genere è chiaro che in una prima fase deve avere bisogno di un forte investimento, un vero forte investimento, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico, no? Per poter effettivamente dare una nuova svolta. Però nel lungo tempo questa cosa, siccome si basa di fatto sulla prevenzione in particolare, andrebbe di fatto a ridurre i costi stessi della parte sanitaria, per il semplice fatto che attraverso una maggiore prevenzione si ridurrebbero il numero delle persone con patologie e le stesse patologie. Allora, questo modello è stato pensato a stadi. Ci sono i primi due stadi, quelli che vedete più in basso, che sono quelli di fatto territoriali, e che hanno una capillarità molto elevata e prendono in considerazione alcuni aspetti pratici del settore sanitario. E mentre invece gli altri due al di sopra diciamo rientrano in quello che si può chiamare rete ospedaliera, dove invece abbiamo una bassa capillarità, perché ovviamente quelle strutture lì non possono essere presenti dappertutto. Partendo da quella più vicina, che è il primo stadio, la microarea, dovrà prendere in considerazione soprattutto la salute di base. Il livello, il secondo stadio, cioè quello superiore sempre del territorio, secondo noi dovrebbero essere le USL, le unità sanitarie locali, ritornando un po' ai termini che c'erano precedentemente, dove però saranno presenti tutte le specialità più utili all'interno del territorio. Dopodiché per la rete ospedaliera si passa al terzo e al quarto stadio, dove per quanto riguarda gli ospedali di zona, cioè il terzo stadio, abbiamo chiaramente una bassa capillarità, cioè un numero chiaramente definito di ospedali, però una specializzazione elevata, un'alta specializzazione, e poi degli ospedali ad alta specializzazione che invece lì avranno una altissima specializzazione ma una bassissima capillarità, cioè saranno pochi. Le microaree cosa sono? Dovrebbero essere delle realtà territoriali con al massimo 5.000 abitanti. Il territorio viene suddiviso appunto in queste microaree che costituiscono le unità territoriali di base della USL. Le microaree ricalcano i limiti minimi delle amministrazioni comunali. Perché? Perché è importante che ci sia il legame tra la parte sanitaria e anche la parte relativa al comune, per cui ai sindaci, ecco, che dovrebbero riprendere un attimino quelli che sono i loro elementi fondamentali previsti nella 833. Per cui cosa significa? Che se noi diciamo che la microarea deve essere formata da 5.000 abitanti, se ci sono dei comuni, io faccio sempre l'esempio del mio territorio, che soprattutto nell'Alto Lago di Como ci sono dei comuni con 100 abitanti, quel comune comunque dovrà avere una microarea, perché ci deve essere appunto sempre questo rapporto tra la parte del sindaco, cioè la parte appunto amministrativa, e quella sanitaria. Perché? Perché bisogna fare in modo appunto che per avere tutti gli elementi di prevenzione bisogna considerare tutti gli aspetti e non soltanto la situazione diciamo così sanitaria delle persone, ma anche dove vivono, anche in che condizioni vivono, anche il livello di istruzione che hanno, perché anche questi vanno chiaramente a incidere, come si sa benissimo ormai da decenni, vanno a incidere sulla salute in generale. Allora, la microarea deve essere il punto di accesso a tutto il Servizio Sanitario Nazionale, perché è un punto di riferimento universale per tutti i cittadini per accedere alla totalità dei servizi. La microarea perciò svolge una funzione attiva che non aspetta passivamente il sorgere del bisogno di salute e lo risolve con una prestazione, ma lo prende in carico attraverso forme di prevenzione e educazione della salute. È ovvio che una realtà che viene gestita in piccole parti, appunto fino a 5.000 abitanti, di fatto le persone che ci lavorano possono avere effettivamente il polso della situazione di quello che accade sotto tutti gli aspetti, per cui non soltanto esclusivamente dal punto di vista esclusivamente sanitario. Questo è un punto di presa in carico di prossimità, perché le microaree si caratterizzano appunto per la massima capillarità sul territorio, e questa permette di conoscere praticamente uno a uno gli abitanti per prendere in carico la salute e ricostruire la coesione sociale del territorio. È previsto un presidio fisico locale per ogni microarea. Le funzioni sono appunto prendere in carico la salute, non solo in senso sanitario, dei cittadini, soprattutto la domiciliarizzazione. Questo significa che le persone, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno il servizio a domicilio. L'assistenza sanitaria di base è l'altro elemento importante della microarea. La microarea assiste i cittadini nei bisogni sanitari di base tramite un lavoro d'equipe e poi un'integrazione sociosanitaria. La microarea, appunto, dato che c'è questo legame anche con la parte, diciamo così, amministrativa generale, prende in carico la salute dei cittadini del territorio in senso olistico, per cui non soltanto di carattere sanitario. L'obiettivo del modello è il superamento della distinzione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria. Il secondo stadio sarebbe la USL. La USL prenderebbe diverse microaree per arrivare al limite dei 30.000 e avrebbe come elementi specifici la multidisciplinarietà. Diciamo che la USL non è un edificio, perché l'edificio è dato di fatto alla microarea. La USL è l'insieme di queste microaree, per cui diciamo è un'istituzione operativa, multifunzionale, multiprofessionale, multidisciplinare, che agisce a tutto campo per la salute del territorio e delle comunità, anche oltre e fuori dai muri istituzionali, in particolare a livello domiciliare. Questa cosa ovviamente aumenta la prossimità, perché l'USL risponde a una logica di prossimità, procedendo in senso inverso all'attuale tendenza di macrodimensione. Vi ricordo che l'ATS di Milano attualmente non ha in considerazione, come pensiamo noi, 30.000 abitanti, ma ha 3 milioni e mezzo di abitanti. Per cui la solita domanda che io faccio, io mi chiedo, il direttore generale dell'ATS di Milano come può sapere quali sono realmente i problemi sanitari che non siano dare la prestazione, ma appunto la questione della casa, la questione dei livelli di istruzione, la questione dell'inquinamento, eccetera, eccetera, in uno dei delle periferie di tutta la sua ATS? È ovvio che non può avere questo posto di situazione, ma perché è impossibile gestire una cosa considerando 3 milioni e mezzo di persone. È per quello che la cosa fondamentale che noi ribadiamo è che ci sia questa prossimità, in modo tale da dare poi una risposta, una conoscenza e una risposta. La risposta deve essere integrata, per cui attraverso le microaree l'USL ha una conoscenza puntuale dei bisogni di salute della popolazione di riferimento e genera anche una risposta assistenziale integrata sia per la comunità che per i singoli individui. Le funzioni della USL chiaramente svolge tutte le funzioni che vengono oggi svolte dalla ATS e dalla SST, però secondo una logica che è completamente differente da quella attuale. E queste, diciamo, sono tutte le funzioni che attualmente vengono svolte, per cui dalla prevenzione fino ad arrivare alla cura, alla tutela degli anziani, alla riabilitazione, all'igiene degli ambienti, eccetera. In pratica Milano, la città di Milano, sarebbe differenziata in queste nuove USL dal punto di vista pratico. Il terzo stadio, come vi dicevo, è invece si va sulla parte appunto ospedaliera. Per cui si pensa appunto all'ospedale di zona, che riguarda circa 100.000 abitanti, fornisce l'assistenza ospedaliera di base e di urgenza alle USL del territorio fino al raggiungimento di un bacino massimo di 100.000 abitanti nelle zone extraurbane e di 200.000 nelle zone urbane densamente abitate. Per quale motivo? Perché la logica di fondo è non tanto la popolazione, ma quanto la possibilità di raggiungere la struttura. Per cui, secondo noi, essendo da prevedere che questa struttura possa essere raggiunta entro 45 minuti, è ovvio che in una realtà urbana è molto più facile raggiungerla rispetto a una realtà extraurbana, per cui è per quello che si fa questa differenziazione. L'ospedale ovviamente ha tutte le specifiche dei grandi ospedali attuali, per cui pronto soccorso, l'unità coronarica, chirurgia d'urgenza, dialisi, nido, sala operatoria, eccetera, eccetera. Il quarto stadio, come vi dicevo, riguarda invece appunto l'ospedale di alta specializzazione, che in quel caso lì è uno ogni milione di abitanti. Scusate, eccolo qui. Questi sarebbero gli ospedali di Milano rivisti all'interno di questa struttura. In questo caso i grandi ospedali, cioè quelli di altissima specializzazione, di fatto ne rimarrebbero due, che in questo caso noi avevamo visto come Niguarda, ovviamente, e il Policlinico. Una volta conclusa, certo. La ristrutturazione. Ecco, il progetto, diciamo così, ribaltato sul Municipio 5. Allora, le microaree del Municipio 5, questo è il Municipio 5, sarebbero quelle che vedete appunto, quei segni che vedete all'interno dei colori. Noi abbiamo pensato il tutto in questo modo, considerando un medico di medicina generale ogni 700 abitanti e un infermiere di comunità ogni 350 abitanti. In questo caso, ribaltando il tutto appunto sulla popolazione del Municipio 5, dovrebbero esserci 189 medici di medicina generale e 378 infermieri di comunità. Le strutture della USL sarebbero di fatto queste, quelle che appunto abbiamo più o meno pensato all'interno di questa cosa, con tre poliambulatori, delle strutture polivalenti per anziani e per disabilità, anche in questo caso tre, consultori, con anche i centri antiviolenza, una casa rifugio, una casa di accoglienza per minori e una casa di accoglienza per malati psichiatrici. Ovviamente queste sono delle valutazioni fatte, ripeto, ribaltando il tutto sulla cosa. Gli organici sarebbero questi, per cui si parla di un totale di 1044 persone, considerando sia l'amministrazione che invece tutti gli altri aspetti prettamente sanitari. Mentre invece per l'ospedale di zona, che sarebbe previsto, il numero di persone che sono relative appunto all'ospedale di zona sarebbe di 830, 1044 invece quegli altri. Allora, concludendo, noi avremmo, rifacendo tutti i calcoli, 6.068 operatori sanitari del Municipio 5. Ripeto, questi numeri ovviamente sono diciamo una riproposizione del tutto matematica, anche qui bisognerebbe poi rivedere il tutto, ma la cosa fondamentale è la percentuale, cioè quello che noi diciamo è che l'86,3% del personale deve essere dedicato al territorio e soltanto il 14% all'ospedale. Appunto perché i problemi devono essere poi risolti a livello territoriale. Qui c'è il Municipio 7, vabbè, no, animi te. Grazie. Grazie. le vostre osservazioni. E questa cosa di privatizzazione del servizio della sanità e tutto, sei contro la Costituzione, come hanno potuto farlo una cosa del genere? Sei contro la Costituzione? Allora, è chiaro che lo diciamo noi, loro non lo affermano in nessun modo che c'è un'incongruenza. Ovviamente. Allora, nel momento in cui tu fai diventare le USL aziende, già lì stai non soddisfacendo, diciamo così, i principi base che sono alla base della nostra Costituzione. Non siamo più portatori di un diritto fondamentale, ma siamo degli stakeholder, ok? Stakeholder. Ma vi rendete conto? Se voi vedeste l'immagine, no, che viene poi messa nei piani, com'è che si chiama? Piao. Ecco, nel Piao, per esempio, della SST del San Paolo e Carlo, no? Santi Paolo e Carlo, è impressionante perché, cioè, vedi questo tu riesci a farla vedere? No? Dovremmo collegarci su internet, vabbè, non è possibile in tempi brevi, quindi abbiamo pochissimo tempo. Comunque è spaventoso, cioè ci sono tutti e poi in un angolino c'è anche l'utente, che guarda caso sarebbe il principale, no, soggetto di riferimento. Quindi questo è incostituzionale, perché lì non c'è nessuna corrispondenza tra l'organizzazione sanitaria e i principi costituzionali. L'azienda stessa ha portato a questo, quindi siamo contro l'aziendalizzazione della sanità. Credo che sia importante appunto quest'ultima cosa che appunto diceva Elisa. La questione è che per poter anche soltanto pensare di far nascere o creare quella cosa che quella specie di sogno che vi abbiamo fatto vedere adesso, è fondamentale che venga cancellata prima di tutto l'aziendalizzazione, perché l'aziendalizzazione non può rimanere all'interno di una cosa del genere, perché è stata quella che poi ha definito il crollo di tutto. E quindi non solo per l'aspetto del autocratico, del solo l'unica persona al comando, cioè non è perché, diciamo, ci preoccupiamo del fatto che ci sia un autocrate che decide tutto. Quello è un aspetto, è molto più, come dire, importante considerare tutto il modo di funzionare dell'azienda, no? Il fatto della segretezza, il fatto dei tempi e metodi, no? Il fatto cioè ci sono tanti aspetti proprio organizzativi anche che sono da rigettare, non solo una questione di autorità che non viene condivisa, no? E conoscenze che non vengono condivise con il personale, per esempio, clinico di un ospedale. Non solo, poi ritornando sempre alla questione costituzionale, come giustamente il problema cos'è? È che purtroppo anche la Costituzione fa un po', cioè ha un po' di confusione ultimamente, ormai già da un po'. Perché? Perché, come voi sapete, nel 2001 c'è stata la modifica costituzionale che ha modificato totalmente il titolo quinto della Costituzione, tra cui rientra appunto l'articolo 116-117, dove praticamente è stato dato in mano tutta la questione sanitaria alle regioni. Per cui, da un lato è vero che dal punto di vista costituzionale è un diritto, per cui il diritto che ho io in Regione Lombardia deve essere lo stesso che ha un'altra persona in Calabria o in Campania. In realtà sappiamo benissimo che così non è, basta vedere il livello dei LEA, no? Ecco, è ovvio che un cittadino in Campania o in Calabria ha in realtà molti meno diritti rispetto a quanti ne ho io, perché se io fossi un cittadino della Calabria che ha un certo tipo di problema, per forza devo andare via da lì per trovare una risposta. Per cui diciamo appunto questi elementi sono elementi enormi, che chiunque rileva, no? Però se ci si basa soltanto sulla parte strettamente normativa, ci sono questi due aspetti, che da una parte appunto c'è il diritto, dall'altra parte si è data la possibilità alle regioni di fare quello che volevano, per cui ognuno fa quello che vuole, ed è per quello che appunto per tutte le riforme che ci sono state comunque ci dovrebbe essere il nulla osta da parte dei ministeri, no? E in ultima analisi il Ministero della Salute. Però come dicevamo prima, in quest'ultima modifica che c'è stata, che avrebbe dovuto rimettere un po' le cose a posto, in realtà non è stato messo niente a posto, perché sono rimaste comunque le ATS e le SST, anche se si era detto fin dall'inizio che dovevano sparire perché doveva essercene una sola, cioè la regione e poi, le varie USL. Questa cosa non è stata accettata, ma non è stata accettata neanche dal Ministero della Salute, per cui è stato anche il Ministero della Salute che ha detto va bene, ok, tutto a posto, potete andare avanti, infatti questa cosa poi è diventata definitiva. Le solite contraddizioni. Sì, volevo ringraziarvi perché avete fatto una bella analisi sulla privatizzazione della sanità in Lombardia, quindi anche questo è uno studio che va portato a conoscenza, perché è vero, sono anni che su tutte le leggi che fanno sono molto incongruenti, insomma, rispetto a quello che scrivono e fanno. Però quello che secondo me è mancato e che è insomma, una proposta che faccio è quello invece di andare anche a studiare, cioè a riportare i dati di quello che succede nel pubblico, nella sanità pubblica oggi. Perché è vero che ormai è tutto privatizzato, però è anche vero, e di questo noi non ne sappiamo molto, che è nel pubblico che c'è la privatizzazione, ancora quasi più alta di quella pubblica. Se no non avete riportato, cioè manca uno studio, se no, nel senso che se io chiamo il CUP e prenoto una visita, ecco, il CUP mi dice la visita sarà fra un anno. Se invece lei vuole andare privatamente sempre nel pubblico, allora ce l'ho tra un mese, giusto? Quindi allora questa è proprio la situazione che ormai è assodata. Cioè, ma in poco tempo, nel giro di un anno, almeno come mia impressione, c'è stata già da un po', però come mia impressione si è assodata ancora di più negli ultimi mesi, e lo è sempre di più, no? Quindi, cioè, secondo me è importante questo, è importante, voi l'avete detto, che il personale scappa dal Servizio Sanitario Nazionale, non parliamo del privato che non ne sappiamo niente ancora, ce ne sappiamo meno, no? Però nel pubblico lo sappiamo che sono entrate le cooperative. Quanti servizi, faccio l'esempio di Niguarda, non conosco molto bene Niguarda perché ultimamente è difficile anche conoscere le situazioni di quello che avviene all'interno degli ospedali, no? Però tanti servizi non ci sono più, semplicemente hanno accorpato delle medicine tipo l'allergologia, la diabetologia, e alla fine che cos'è che è rimasto? Quasi niente, cioè. Quindi, insomma, queste cose, se noi vogliamo presentare e ragionare, perché sono d'accordo su un progetto futuro di una sanità pubblica, dobbiamo conoscerla bene e in fondo e proprio chiacchierare su queste proprio magagne che ci sono, come la dobbiamo affrontare, perché quello che ormai oggi si sente è proprio la difficoltà, come la dobbiamo affrontare. Perché se abbiamo, come dire, un sistema che ormai è nazionale, dove destra e sinistra si comportano quasi allo stesso modo per quanto riguarda la sanità, perché la colpa ce l'ha la destra, ma ce l'ha anche la sinistra, perché la sinistra è la dimostrazione, no? Che diceva sulla Costituzione, sul fatto che Formigoni ha governato per 20 anni e qui non si è mai fatta una vera manifestazione davanti alla regione da dover bloccare, no? Come si faceva una volta anche tanti servizi sanitari, no? Quindi vabbè, non la faccio più lunga, è questo qui. Sono d'accordo. Temo di non riuscire a stare fino alla fine e volevo innanzitutto riporto, anche se mi sembra superfluo, il ringraziamento degli sportelli della zona 5, penso che tutti sappiate cosa sono, perché è girata nella chat degli sportelli questo invito, lo ritengo superfluo, però vabbè. Prendetelo per buono questo ringraziamento da parte degli sportelli, ma poi volevo dire quello che è un progettino, un'idea, un'ipotesi intorno alla quale stiamo lavorando, oltre al lavoro che facciamo normalmente con tutti coloro che litigano con le liste di attesa, che è una raccolta di firme su una mozione che ha due parti. La prima non ve la leggo perché sono cose abbastanza trite che vi annoierei, ma i due punti rispetto ai quali, che sono gli obiettivi che ci poniamo, sono intanto quello di mettere nella stessa sala la trentina di volontari che lavorano negli sportelli della zona 5, le 200 persone con le quali abbiamo fatto i ricorsi nella zona 5, ci auguriamo il migliaio o 2000 persone che firmano, al momento penso che siamo sopra le 200 firme che firmeranno questa petizione, di mettere tutto questo gruppo di persone che ci sembrano interessate a questa cosa dentro il consiglio della zona 5, con possibilmente la giunta presente, perché chiederemo alla giunta di organizzarla a seguito di questa raccolta di firme, e questa raccolta di firme ha questi due punti come obiettivi. Raccogliamo le firme per chiedere ad ATS Milano di non dare più autorizzazioni, accreditamenti e convenzioni ai privati e di ripristinare tutti i servizi e prestazioni pubbliche che erano presenti nei territori. Stupidaggine, come avete visto. Due, al Consiglio del Municipio 5, e questa mi sembra una cosa un pochettino più perseguibile, di operare per fermare l'impoverimento del servizio pubblico, di non accontentarsi di conquistare una sede di una casa di comunità, ma di ottenerne in numero sufficiente, soprattutto dotate di personale, servizi adeguati, e di impedirne la privatizzazione. Cioè, l'obiettivo è quello di arrivare in una seduta in luogo istituzionale, possibilmente con la giunta del Consiglio di Zona 5, a discutere di queste cose in maniera tale che si possa evidenziare qual è la loro conoscenza. Intanto gli facciamo sentire queste cose, che male non dovrebbe fargli. Non fa male. Intanto le facciamo sentire a tutti i nostri, a tutte le persone con cui siamo in contatto. In quella sede, facciamo una bella assemblea, chiediamo, in cui partiamo da questa cosa qui, no? La mettiamo insieme a questa mozione e facciamo sentire alla giunta queste cose e gli chiediamo qual è la situazione in zona 5 in questa prospettiva, e di rendere pubbliche tutte le informazioni che hanno, e se non le hanno di grattarsele, per favore. Ovviamente, come al solito, siamo disorganizzatissimi, perché non abbiamo lasciato giù in questo momento un modulo per raccogliere le firme. Per fortuna ce n'è uno che davanti è tutto compilato, ma dietro è vuoto, per cui lascio quello vuoto e quando è pieno lo consegnate a Pino, che poi ce lo fai avere. Grazie. Allora, intanto grazie. Invece ti chiedo di restituirmi la copia che ti ho dato, che è piena di firme. Okay. Il testo... Il testo ve lo mando poi. Però questo. Il testo ve lo mando con un altro. Sì. Quindi fermiamo anche noi, va bene. Lì potete firmare tutto quello che volete. Io chiedo anche alle persone presenti di. Vi avevo già chiesto. Com'è? Solo quelli del Municipio 5. Questo, il nostro obiettivo è quello di andare in tutti quelli del zero. Firma chi vuole. No, bisogna dire che scrive. Sì. Ecco, una cosa che non abbiamo avuto tempo di far vedere è appunto quello che potrebbe accadere anche per le case di comunità. Allora, questa è una delibera del 2021 fatta da ATS Milano, che poi è stata recepita da una delibera di giunta, per cui è diventata a questo punto di livello regionale. E in questa prima idea che si intitolava appunto approvazione delle linee di progetto per l'attuazione delle case ospedali di comunità nella città di Milano, l'ATS di Milano diceva: è infine possibile prospettare, dopo aver ovviamente spiegato cosa sono le case di comunità, è infine possibile prospettare specularmente forme di collaborazione pubblico-privato attraverso le quali all'interno di una struttura a conduzione pubblica parte dei servizi amministrativi e sanitari possono essere affidati, tramite procedura di evidenza pubblica ovviamente, a soggetti privati, pur mantenendo l'ente pubblico la responsabilità di gestione. Cioè, in pratica, anche in questo caso, si sta cercando di dire che le stesse case di comunità dovrebbero essere fatte anche da realtà private. Per cui, perché probabilmente si sono resi conto che il PNRR di fatto ha costruito le mura o le aree imbiancate, diciamo, però la gente all'interno non c'è, perché manca il personale. Il problema di fondo è questo. E allora, brillante idea, lì dentro noi a questo punto possiamo, diciamo così, privatizzare tutto, partendo dal personale, ma poi anche le case di comunità, in modo tale che comunque un servizio, visto come prestazione, sempre come prestazione, può essere dato. Allora, il problema è che una cosa del genere va fin dall'inizio a far crollare l'idea della casa di comunità, che appunto doveva essere l'elemento fondamentale sul territorio, che aveva il polso della situazione, di quello che succedeva nel proprio territorio. In questo modo, privatizzando tutto, di fatto si ha un servizio sanitario che non è più servizio sanitario ma è un simulacro, nel senso che esiste come nome ma in realtà è totalmente un'altra cosa. E quello che volevo farvi vedere invece era anche quello che sta succedendo, e in questo caso però già esiste, per quanto riguarda invece gli ospedali di comunità, perché se per le case di comunità questa cosa della privatizzazione non è ancora stata resa concreta, perché sono in ritardo, non ci sono neanche le case di comunità pubbliche, per cui non ci sono neanche quelle private, anche perché francamente il privato, se dovesse aprire una vera casa di comunità, cioè con le vere con i veri obiettivi di casa di comunità, non avrebbe nessun tipo di elemento positivo per lui. Guarda caso invece con gli ospedali di comunità sono già partiti, tant'è che tutte le ATS hanno dovuto già fare un bando per richiedere a realtà private la loro volontà di gestire un ospedale di comunità. E all'interno di questa delibera voi potete vedere perché. Perché per l'ospedale di comunità chiaramente ci sono delle tariffe, sì. E queste tariffe sono determinate in tre fasce, per cui 150 euro al giorno fino a 30 giorni, 107 euro se si supera il 30° giorno e si arriva al 60° e oltre il 60° giorno 77 euro. La motivazione qual è? È un po' come quella dei DRG, praticamente se una persona rimane all'interno più tempo viene ridotta la quota di rimborso, perché in questo modo le varie realtà sono, cioè, tendono a buttare fuori letteralmente le persone, perché chiaramente vanno a prendere un'altra che gli fa guadagnare di più rispetto a quella che è lì già da parecchio tempo. Il problema cos'è? È che se noi, allora io vi parlo dove lavoro io, in una ASST, noi abbiamo 3 ospedali di comunità e vi posso assicurare che ci sono delle persone che sono all'interno da più di 200 giorni. Io credo che una cosa del genere all'interno di una realtà privata che ha vinto la possibilità di gestire l'ospedale di comunità tipo questa, questa è la carta dei servizi di una delle realtà private che ha vinto la possibilità di gestire un ospedale di comunità, dove nella prima parte riprende gli elementi che vengono determinati dalla regione, cioè il fatto che appunto le persone dovrebbero rimanere in linea di massima 30 giorni. Però dice privato che al termine del ricovero l'utente è obbligato a liberare il posto letto di degenza, e credo ovviamente che queste strutture non faranno certo superare i 30 giorni, arriveranno ai 30 giorni, dopodiché butteranno fuori letteralmente le persone. Certo, non possono fare per forza la faccia truce, per cui mettono chiaramente all'interno delle modalità che insomma le persone alla fine possono o rientrare al domicilio per il superamento del problema, oppure essere trasferite a una delle unità di offerta sociosanitarie, e loro come Zaffiro mettono a disposizione i propri posti letto presso le RSA a tariffe agevolate per i primi 90 giorni. Per cui, per quale motivo chiaramente i privati sono entrati in questa cosa? Semplicemente perché è un altro metodo per poter avere dei clienti che possono poi girare sulle loro realtà private che stanno gestendo, come fanno nei poliambulatori, dove appunto aprono i punti di prelievo, perché lì poi dopo mettono tutta la pubblicità dicendo noi vi diamo anche questa prestazione a un costo un pochino superiore rispetto al ticket, però ce l'avete in 5 giorni, 4 giorni, eccetera, eccetera, però pagate direttamente, insomma, ecco. Per cui il problema è questo, è che davvero la sanità ormai negli ultimi periodi, e soprattutto dopo il Covid, è diventata, secondo me, davvero sempre più una realtà che viene sfruttata al massimo per poter guadagnare, per poter fare utili. Va bene. Io andrei. Vabbè, allora, scusate, volevo dire, non so, questo si farò. Prego. Questo. Non so se vuoi. Va bene, allora intanto un ringraziamento a, come rete, Tanta Salute per Tutti, a tutte le compagne e compagni che hanno partecipato, oltre che al bellissimo, alla bellissima relazione che è stata fatta qui. Certo, mi viene in mente che la cosa importante è non solo denunciare le cose, ma anche trovare il modo per cambiarla, perché poi questo è, e non è sempre facile all'interno di un percorso di questo tipo. Di fatto abbiamo la consapevolezza che l'aziendalizzazione, la privatizzazione, la mancanza di finanziamento della sanità hanno portato a tutte le cose che vediamo, lo sfascio della medicina territoriale, l'emergenza, le liste d'attesa per quanto riguarda le prestazioni di medicina specialistica e l'intasamento dei pronto soccorsi. Questo è quello che c'è. Dovremmo trovare anche un modo per mettere dei granelli di sabbia in questo ingranaggio e, farlo andare a rotoli. Purtroppo non è semplice, però tutto sommato il primo passaggio da fare è quello di denunciare. Magari facciamo questa firmiamo anche questo appello che il compagno ci ha lasciato qui, continuiamo a vederci, continuiamo a rimanere in contatto, chi vuole lasciare l'indirizzo, nome, cognome, indirizzo email per essere aggiornati, va bene così, e invito tutti poi al termine di questa riunione ci sarà un aperitivo di autofinanziamento per la rete Tanta Salute. Dopodiché sul tavolino là in fondo ci sono materiali vari e di cui si può prendere copie, un pochettino di tutto, e niente, alla prossima occasione ci vedremo anche col nuovo numero del bollettino, che purtroppo non era ancora disponibile, e grazie ancora del